Direi che incominciamo, riusciamo addirittura ad andare prima della mezz'ora di ritardo accademica di questo posto, quindi è già un punto a favore. Mi sembra che c'è parecchia gente, anche questo è un punto a favore. Do qualche nota iniziale così recuperiamo, le faccio così non ho problema di ricordarmele dopo e possiamo discorrere poi più in maniera continuativa e fluida. Allora, all'ingresso, l'avrete visto tutto, c'è un banchetto con dei materiali, ci sono degli opuscoli, ci sono dei libri, un piccolo estratto della Libreria Calusca e della mostra, di cui vi dico dopo che è sopra. Ci sono anche delle copie in bozza di un vademecum sulle misure alternative. Di questo anche parleremo magari un attimo meglio più avanti, che è in via di produzione dall'Assemblea milanese contro il 41 bis dell'ergastolo. E c'è il testo dell'appello Vogliamo rompere un tabù, di cui parleremo più tardi in questa stessa assemblea. Questa assemblea vorrebbe essere un'assemblea propositiva, recuperare dei pezzi in modo di storia di quella che è stata la storia della lotta che ha affiancato lo sciopero della fame di Alfredo a partire dall'ottobre del 2022 e diciamo un pochino si è poi sfilacciata col tempo e cercare di in qualche modo vedere se e come è possibile andare avanti su questo piano in una scala più allargata di quanto non sia in questo momento qua. Quindi chiederemmo degli interventi non lunghi e magari propositivi o quantomeno dialoganti l'uno con l'altro. Ecco, vorrebbe essere un'assemblea che da cui magari si tira fuori anche un pochino di proposte, di intenzioni, di valutazioni su quel che è stato e di quello che potrebbe essere. Al piano di sopra c'è la mostra, una mostra dell'archivio Moroni che è stata fatta per il piccolo salone in occasione del piccolo salone del libro politico che c'è stato qua l'8 e il 9 di giugno. Oggi è l'ultimo giorno e chi vuole poi può andare a vedere. Sono materiali d'archivio. Poi ci sono un pochino di testi soprattutto della casa editrice Colibrì, e poi ci sono dei testi, invece dei punti rossi, dei vecchi testi degli anni 70 e riviste, eccetera, che sono in vendita. Il materiale d'archivio naturalmente è solo in consultazione. Poi dico a tutti che questo incontro va in streaming, che sia detto. E verrà messo poi in podcast tra i materiali del Conchetta, come facciamo abitualmente. Infine, finito di parlare, faremo un piccolo rinfresco, un aperitivo, una cosa molto semplice e leggera per fare un pochino di cassa appunto per la stampa del vademecum di cui sopra, sulle misure alternative. Va bene. Allora, provo a introdurre, cercherò di essere breve. Allora, l'Assemblea milanese contro il 41 bis dell'ergastolo nasce intorno alla fine del 2022, nel novembre. Proprio qua c'è stata un'assemblea il 27 di novembre, molto partecipata. A seguito posso ricordare un presidio a cui è seguito un corteo del 29 di dicembre, un corteo partito a Porta Genova molto partecipato il 15 di gennaio, un corteo l'11 di febbraio che invece ha avuto un esito diverso perché è stato fermato dalla polizia e caricato. Da questo corteo abbiamo messo lì sul banchetto le pagine dei giornali del 13 di febbraio, quindi il giorno dopo che raccontano un po' questa faccenda. Vi ricordo che l'11 era stato Alfredo era stato portato al San Paolo, era a Milano Opera, era stato portato d'urgenza al San Paolo, quindi diciamo il clima era molto teso, c'era una grossa preoccupazione per le sue sorti, che sembravano aggravarsi. E da questo corteo nasce il processo che dovrebbe iniziare il 3 di luglio, adesso, tra 3 giorni, a carico di 13 compagne e compagni fermati in quel giorno. Dopodiché, in tutto quel periodo, adesso non sto qua più a farla tanto lunga, come tutti voi saprete, perché con molti ci siamo visti, il movimento, la lotta, come dire, la presa di posizione contro il 41 bis e l'ergastolo, ostativo e non, è stato molto grosso in tutta Italia e non solo. A Milano abbiamo fatto una serie di iniziative in tanti posti e volantinaggi, presidi, cortei, oltre a questi che ho detto, e diciamo a cosa è riuscita a coinvolgere molto, è stato, diciamo, in qualche modo ha aperto molto il fronte sulla questione carceraria che per lunghissimo tempo era rimasto un pochino nei circoli di addetti ai lavori, per un modo o nell'altro, per un motivo o nell'altro, come per addetti ai lavori. Allora, il carcere, noi sappiamo in qualche modo è il trattamento che viene riservato a chi è incompatibile con questo sistema basato sullo sfruttamento. Chi non ci sta perché non vuole o non ci può stare, chi non è in qualche modo disciplinabile, non vuole farsi disciplinare o addirittura chi lo combatte. Il carcere è il trattamento di, in qualche modo, eliminazione o confinamento o contenimento di quelli che sono gli attriti più forti della contraddizione capitale-lavoro. Il carcere, inoltre, va detto, è un elemento anche di marketing del potere. Cioè, abbiamo assistito nel corso di questi anni di un passaggio dalle tutele collettive alla sicurezza individuale. Vi è stata una presa in carico dal punto di vista della comunicazione del potere che ha spostato fortemente l'asse sui diritti delle collettività come si può dire, il principio vittimario, ecco, per dire in qualche modo. Allora, in questo senso qua, il carcere acquista anche un significato protettivo anche per quei settori proletari che ne sono in qualche modo direttamente coinvolti, di cui sono potenzialmente vittime. E quindi e qui ha partecipato a qualche volantinaggio, io mi ricordo in particolare quello che è stato fatto davanti all'ospedale San Paolo quando c'era Alfredo ricoverato dentro, ha potuto ben toccare con mano come diciamo, la contraddizione posta dal carcere venisse assunta anche da parte del territorio come una forma, diciamo, una cosa positiva e protettiva. Questo lo dobbiamo mettere in conto, è un elemento che in qualche modo va a mettere in conto. Allora, dicevo, il carcere accomuna proletari, sottoproletari e resistenti, rivoluzionari o comunque persone che si oppongono. Questa comunanza però è pericolosa, il capitale lo sa. Non vale la pena solo di citare, parte di cose, di riferimenti si possono trovare di sopra nella mostra e non solo, ma comunque saranno a tutti noti, come è stato significativo alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 il coniugio tra quella parte di detenuti, allora si diceva comuni, diciamo così, proletari, e da parte di detenuti politici. Sempre allora c'era questa, diciamo, distinzione tra il comune e il politico, che in realtà si sono in qualche modo confusi l'uno con l'altro e contaminati e hanno dato luogo a una serie, naturalmente supportati anche dalla situazione esterna e dal momento in qualche modo sociale generale, una serie di iniziative contro il carcere molto forte. In una piccola disamina delle pagine di Lotta Continua, che a quel tempo aveva una commissione carceri molto attiva sull'argomento, io ho contato dall'aprile del 73 al dicembre rivolte carcerarie in 26 diverse città, che non vuol dire 26 rivolte. Vuole dire che 26 città sono state coinvolte da delle rivolte che si sono magari ripetute nel corso di questo periodo e che in gran parte consistevano in salita sul tetto e delle piattaforme rivendicative molto articolate e complicate, diciamo, delle rivolte molto significative anche dal punto di vista politico. Questa cosa sfocia nella riforma dell'ordinamento penitenziario del 75, però un mese dopo che l'ordinamento penitenziario viene approvato, già 800 persone sono sul tetto di Rebibbia perché non era abbastanza. Ecco, per dire, allora il Capitale ha fatto tesoro di questo episodio e si assiste da allora a una progressiva attuazione di provvedimenti atti a desolidarizzare il mondo del carcere, della galera. E questo va dai circuiti speciali, il circuito di Camosce, le carceri speciali, poi l'articolo 90 e i circuiti di alta sicurezza, arriviamo adesso, ai trattamenti premiali, quindi circuiti alternativi, trattamenti premiali, trattativa individuale col detenuto, e quindi abbiamo sia l'ordinamento 75 sia la Gozzini dell'86, il cui scopo è quello di rompere la possibile identificazione di un corpo unico che è il corpo dei detenuti, sia all'interno sia in quanto come visti dall'esterno. La frantumazione sociale in questo senso è una forma di repressione, non è da considerare, è una cosa determinata allo scopo di potere, come dire, effettuare delle forme di dominio più forti. Allora, quello che i 5 mesi della lotta a fianco ad Alfredo hanno fatto è stato di scalfire questa frantumazione. Cioè, uno degli aspetti positivi che c'è stato è stato che tutto questo ragionamento si è rotto ed è, diciamo, l'allargamento della battaglia sul carcere ha significato che effettivamente era passato un messaggio che la questione era più importante e più generale e quindi non riguardava solo dei gruppi piuttosto che dei soggetti. Come il carcere, così è la società. Era scritto in un volantino di una iniziativa che è stata fatta qua vicino nel marzo del 2023. Perfetto, ad aprile del 2023 Alfredo interrompe lo sciopero della fame, fa una scelta di vita, vuole sopravvivere, ha vinto una battaglia importante dal punto di vista simbolico e anche in parte dal punto di vista sostanziale, però però la sua situazione si ripropone quasi esattamente come prima, cioè in immediato lui torna a Bancali nella stessa cella, non so se è proprio la stessa identica medesima, in cui era prima, quindi torna alla casella principale. Non è esattamente così, però lasciatemi dire, dal punto di vista soggettivo della sua esperienza e della sua vita e della sua prospettiva per i prossimi anni, riparte in qualche modo da capo. E progressivamente questo movimento, come lo possiamo chiamare, scema. La questione ritorna nell'ambito di addetti ai lavori e quindi non è che finisce tutto, però diciamo un pochino questo allargamento mostra delle crepe forti, ecco, non tiene più. Parte forse anche perché, io dicevo prima che il carcere fa marketing, siamo nel mondo della comunicazione, nel mondo dello spettacolo, naturalmente i giornali non ne parlano più, certo la tensione emotiva viene a mancare, però diciamo, va considerato che in qualche modo le cose cambiano. E difatti con molti di voi che ci siamo visti forse un tempo, e poi per lungo tempo ci siamo anche visti di meno. Restano delle cose, si costituisce un coordinamento nazionale che si chiama Liberare Tutti e Tutte, che si vede un paio di volte, che sarebbe una continuazione della campagna Morire di Pena lanciata dalla rivista, dai napoletani, da Monitor, diciamo, però una ridefinita completamente. Però va detto che anche questo coordinamento fa la sua fatica. È un luogo dove si testimonia costantemente l'attivarsi di iniziative specifiche singole sul territorio, e quindi va bene come punto di riferimento per varie iniziative, però non riesce più a rimettersi, a mobilitare in qualche modo lui stesso. Si viene creato un supporto, uno sportello di supporto per i familiari di detenuti morti in carcere, che ha una certa interesse e rilevanza, perché riesce a ricostituire una rete attraverso queste situazioni che altrimenti sarebbero lasciate alla loro tragedia e al loro destino così com'è. L'Assemblea Milanese, per chi non c'era, non smette di fare. Io direi forse riesce meno a raccontare quello che fa, rimane forse anche un pochino prigioniera di qualche mezzo di comunicazione che la chiude un po'. Comunque vengono fatti una serie lunga di volantinaggi davanti ai carceri, durante i colloqui, prima e dopo i colloqui, dei saluti ai detenuti, a Opera Beccaria San Vittore, un tentativo di ricostituire anche là dei collegamenti, delle relazioni, e viene fatto un lavoro specifico sulla questione sanitaria della salute, essendo che Milano è polo, appoggiandosi a San Paolo, è un polo significativo per la medicina del carceraria. Tant'è che Alfredo era stato trasferito a Milano da Bancali, dove era, e altri detenuti vengono, fanno, se hanno lo stesso, seguono la stessa sorte. E insieme agli sportelli Tanta Salute, lì c'è un pezzo del bollettino, e in realtà, vabbè. E poi viene messo in bozza questo libretto sulle misure alternative di cui vi accennavo prima. Contemporaneamente partono una serie di processi o di inchieste per chi ha fatto delle iniziative a fianco ad Alfredo. Questa del 3 luglio, di cui vi facevo cenno e di cui parleranno poi più diffusamente, è esattamente una di queste. Non è l'unica, ce ne sono a Milano, a Bologna, a Teramo, a Roma, e dopo anche di questo una compagna darà un quadro un pochino più completo, però diciamo inevitabilmente comincia ad arrivare un conto da pagare su questo. La situazione dei 700 e passa detenuti al 41 bis è immutata. Alfredo, come l'ho detto, è tornato dove era. Ad oggi, nel 2024, si contano 47 suicidi. La situazione interna alle carceri è esplosiva. Anche, va detto, perché in una situazione in cui, come si può dire, di una crisi quasi ventennale, il capitale non ha più tante carote, deve dotarsi di tanti bastoni. E questo si vede nella normativa e nella pratica. Quindi le carceri sono costantemente sempre più affollati, e le stesse guardie lamentano difficoltà della gestione interna. Ci sono stati dei casi di evasione di recente, probabilmente legati anche a questa situazione, e quindi e naturalmente l'interno, la parte repressiva aumenta, quindi vuol dire i blindi chiusi, quindi vuol dire forme di controllo più dure, no? Aree più corte e queste robe qua. Quindi la violenza fisica che si aggiunge alla violenza generale dell'istituto carcerario aumenta. La situazione è in qualche modo esplosiva. Aggiungo che questo nulla scalfisce alla situazione in cui si trovano i 16 militanti delle Brigate Rosse da oramai più di 40 anni e i tre che sono detenuti al 41 bis. Vi prego di notare che il 41 bis nasce nominalmente come, a parte nasce per, come nell'ambito della lotta contro la mafia, non faccio la storia lunga, ma nasce per, diciamo, sostiene, è spacciato come una forma di allontanamento, impedimento al detenuto di avere contatti con la sua organizzazione. Nel caso specifico di questi tre compagni BR che sono al 41 bis, questa organizzazione praticamente non c'è più. Cioè sono anni che di questa organizzazione non si ha traccia. E di fatto nelle ordinanze di rinnovo del 41 bis è scritto che la loro è una pericolosità per il loro modo, adesso se volete poi lo possiamo anche trovare, per la loro, che loro hanno una intrinseca pericolosità per la loro esperienza e pratica passata, che non ha nulla a che fare con la necessità di doverli tenere lontani da un'organizzazione, ma vuole semplicemente dire che queste persone non devono uscire perché loro stesse costituiscono un pericolo per il loro essere. E di questa cosa purtroppo si parla anche poco, e vabbè, anche se sono anni di cui si parla abbastanza ultimamente, di recente, però insomma. Va bene, allora in questa situazione vado a finire proprio veloce. Dicevo, poche carote e molti bastoni. Le vediamo, no? Le vediamo. C'è una serie di no. Adesso sta arrivando questo decreto sicurezza, detto da qualcuno decreto Gandhi, che va a che penalizza, decreto Gandhi perché penalizza il presidio, il picchetto, anche le forme pacifiche di opposizione. Penalizza, però abbiamo già visto il permesso agli agenti di portare delle pistole anche personali fuori servizio. Abbiamo visto dei finanziamenti per l'aumento della forza pubblica cosiddetta e del personale penitenziario, nuovi carceri. La risposta è quella, diciamo in qualche modo. In più, la questione del decreto rave sugli assembramenti, eccetera. Quindi la tendenza e la risposta evidentemente è questa qua. In più, le ipotizzate norme contro le rivolte carcerarie o contro chi parla di rivolte carcerarie. Quindi lo spettro è amplissimo in questo senso delle manovre che si stanno prendendo. È logico, diciamo, è comprensibile. Ancora, i migranti, naturalmente, l'uso della detenzione amministrativa per i migranti e non solo, perché già ci sono dei casi, in Italia non credo, però ci sono stati in Europa dei casi in cui lo stesso luogo di detenzione amministrativa sono stati utilizzati anche in modo diverso, mutuata dall'esperienza israeliana, in cui questo fenomeno è molto forte da molto tempo, anche di questo poi si parlerà più avanti. E infine il business della guerra, che naturalmente diventa una delle carte che il capitale gioca nei momenti di grande crisi e che fa gendarme, nello specifico nel gendarme di Israele, anche l'Italia nei confronti dei palestinesi che sono in Italia e dei compagni palestinesi che sono in Italia, oltre che con le flotte nel mare ed anche con le forniture militari. Ecco, quindi non ci si deve aspettare su questo niente di buono. Quello che io volevo provare in qualche modo a in questo ricapitolo è a sottolineare l'importanza, uno, dal carattere eminentemente politico di questa battaglia e anche il carattere eminentemente politico della necessità del suo allargamento, perché è solo con l'allargamento che questa battaglia riesce a fare un salto di qualità, come a mio parere nel periodo dello sciopero della fame di Alfredo aveva fatto. Va bene, non la faccio più lunga. E adesso avremmo un piccolo aggiornamento su Alfredo, breve, con una registrazione di una telefonata fatta con Teresa Pintus, che è l'avvocato che lo segue a Bancali, e poi altri. Allora, come dicevamo, ti vorremmo chiedere, fare un paio di domande. Una che riguarda più direttamente Alfredo, no? Visto che per avere qualche aggiornamento da riportare in assemblea, perché effettivamente non ne sappiamo più molto. E quindi non so se puoi, quello che puoi dirci sulla sua situazione attuale. Certo. Allora, niente, per quanto riguarda Alfredo, tutto bene, o meglio, lui sta bene dal punto di vista fisico e umorale, se così si può dire. Dagli altri punti di vista, diciamo che non va bene niente, nel senso che i libri, che era la questione insomma più importante, quella che li preme di più, iniziano comunque a consegnarli, sempre facendolo un po' penare per avere quelli che vengono appunto richiesti, cioè lui fa la richiesta, come sapete bene, e poi passa un po' di tempo prima che glieli comprino, però glieli stanno consegnando. Quello che invece non stanno consegnando sono le lettere, che spesso vengono trattenute, e quindi io sto impugnando tutte le lettere che vengono trattenute. Adesso l'ultimo provvedimento positivo si è avuto di nuovo da Torino, proprio perché è stato ritenuto che comunque la lettera doveva essere consegnata. Però oggi, perché questo lo vedo in diretta con voi, lui ha fatto un reclamo che poi ovviamente dovrò implementare per uno, due, tre, sembrerebbero quattro trattenimenti. Lui dice che si tratta di libri che sono stati spediti e sono in libera vendita, e questo il 41 bis lo proibisce, quindi probabilmente lui ha impugnato questo. E poi credo invece che ci siano delle lettere, però non si capisce quali possano essere il contenuto perché non vedo i decreti di trattenimento. Queste sono. Poi, ovviamente, la cosa più eclatante riguarda il fatto che, nonostante avessimo l'ok, se così si può dire, da parte del nucleo artificieri di Nuoro, è stato rigettato il reclamo presentato per autorizzarlo all'acquisto di lievito e farina, e quindi ritenendolo ancora questi generi alimentari pericolosi. E quindi ho dovuto impugnare anche quello dopo mesi che abbiamo atteso per avere la pronuncia da parte del magistrato di sorveglianza. Lo Come al solito sembra sempre proprio assurdo. No, dico, come sempre sono quei divieti assurdi che servono. Esatto, tra l'altro questo è un divieto che esiste solo esclusivamente in Sardegna, perché il divieto di acquisto di lievito e farina c'è soltanto negli istituti di pena sardi. In generale, quindi tu che so che segui anche altri detenuti in 41 bis, la situazione Sì. per tutti è più o meno questa, ricorsi, divieti. Allora, gli uffici e i tribunali di sorveglianza sono intasati quasi esclusivamente dai reclami che vengono presentati da parte dei detenuti nel regime detentivo speciale. Non che ovviamente che i detenuti cosiddetti comuni stiano bene in carcere, perché come ben sapete siamo a 45 suicidi quest'anno, quindi immagino che sia abbastanza pesante la situazione. Però, siccome hanno molte più, prendetele con le buone, quello che dico, hanno molte più agevolazioni, quindi non si rivolgono ai magistrati, mentre i detenuti al 41 hanno tutta una serie di divieti che effettivamente sono appunto assurdi, quindi devono per forza rivolgersi ai magistrati. Sì, e quindi tu parlavi anche delle condizioni, cioè dei suicidi, ce ne sono stati due recentemente, no? Lì a Bancali, più oggi sì. O ieri, quest'altro signore che si è dato fuoco, è una, sì, e questo riguarda la parte dei comuni, no? Immagino. I comuni, quasi esclusivamente i comuni, per non dire solamente i comuni, fanno i comuni, vabbè, gli AS fanno questo tipo di atto estremo. Sì, e tra i detenuti 41, da che abbiamo memoria, non ci sono stati suicidi. No? Non è successo al 41 bis? No. Ah, guarda. No, qualcuno, sì, secondo quello che sono le relazioni che poi emergono, si lascia morire, ma si lascia morire tutto lì, e insomma bisogna capire cosa si intenda. E senti, ma tu vai anche, vieni anche spesso al carcere di Opera? Su questo hai qualche cosa che ci vuoi dire? Allora, il carcere di Opera rispetto a quello di Bancali ha come pregio e come se un pregio quello di avere comunque il centro clinico da una parte e dall'altra. Questo centro clinico fondamentalmente non serve a niente, nel senso che io sono stata anche 2 settimane fa, perché ho un cliente che è stato trasferito da qua, cioè da Bancali, a Milano Opera, perché ha avuto un ictus e quindi si è ritenuto opportuno spostarlo a Milano Opera. Però a Milano Opera ancora non gli hanno fatto niente. Per fortuna non sta male, nel senso che è stato preso in tempo, quindi ha la possibilità, insomma, non ha leso dal punto di vista della memoria e tutto è a posto. Però, insomma, deve essere in ogni caso controllato e non è stata fatta ancora una visita. E questo è stato trasferito da 2 mesi già. Quindi questa è la struttura di Milano. L'avevamo ampiamente visto quando c'era ricoverato Alfredo. Va bene, intanto ti ringrazio tantissimo. Insomma, vediamo di ritirare, di tenersi aggiornati. Certo. Per questo nuovo silenzio che si è creato su... Quando volete. Grazie. Grazie. Grazie. Buona serata. Ciao. Allora, io volevo solo dare degli appunti su quello che sarà l'udienza del 3 luglio e su quello che riguarda un po' l'iter processuale che c'è stato fino ad ora per quel corteo dell'11 febbraio. Il 26 giugno sono state date 7 misure cautelari tra divieti di dimora, obblighi di dimora nel comune di residenza e alcuni divieti di dimora con l'obbligo di firma. Piano piano queste misure sono cadute, si è arrivati fino a 9 ottobre, dove tutti i divieti di dimora erano venuti meno, e infine nell'arco di novembre-dicembre sono state tolte anche le ultime firme. All'oggi quindi di quelle misure cautelari non rimane nulla, ci sarà questa udienza il 3 luglio, dove però a chiusura indagini sono stati aggiunti altri compagni accusati appunto di aver preso parte a quel corteo. Nello specifico sono stati aggiunti compagni anche di altre città, quindi non solo di Milano, e le accuse variano da resistenza aggravata, danneggiamento, fino a travisamento. Questo è di base quello che ci sarà, di cui si discuterà in quel processo, e c'è un tentativo, sembrerebbe quasi da parte della controparte, di depoliticizzare totalmente quello che era, quello che era stato quel corteo, ma cioè, l'obiettivo sembrerebbe di parlare solo di quello che appunto si dice che sia successo durante quella manifestazione. Ora, quella manifestazione sappiamo tutti in che contesto veniva creata, veniva lanciata, sappiamo tutti che era proprio il giorno in cui Alfredo veniva ricoverato in ospedale, e in quel momento c'era nell'aria, a livello nazionale, a livello cittadino, c'era una forte tensione. Non era il primo evento, sicuramente non era la prima chiamata che c'era stata in città, sono state nominate alcune cose, però vorrei ricordarne altre. È stato calato un grosso striscione, occupata una gru in Piazza della Scala, sono stati calati degli striscioni dall'interno del Tribunale di Milano, quando Alfredo era finito a San Paolo sono stati calati degli striscioni da dentro San Paolo, ogni giorno durante una settimana sono stati fatti presidi, e successivamente a quel corteo la militarizzazione è cresciuta tantissimo. Basta ricordare il presidio chiamato subito dopo al Comune di Milano, dove si voleva appunto parlare del fatto che non si sarebbe in nessun modo lasciata passare sotto silenzio l'alimentazione forzata che voleva essere, sembrava essere nell'aria per Alfredo, c'era una militarizzazione eccessiva, c'era una quantità di spiegamento di forze veramente mai visto per Milano, e oggi tutta quella militarizzazione, quella repressione che in quel momento vedevamo lì con i carabinieri, con le camionette, pensiamo possa essere anche la stessa leva su cui la repressione agirà, nel senso, un processo come quello del corteo dell'11 febbraio potrebbe essere un processo che, visti gli ultimi processi in merito di cortei, di manifestazioni che hanno avuto un impatto con la polizia, pensiamo che comunque la controparte possa calcare la mano e sia interessante non lasciare solo e soli e sole chiunque in quel processo ci sia, chiunque ci sia stato in quel corteo, e quindi anche per come è stata chiamata questa assemblea c'era anche l'idea di dire che in quel corteo sì, c'eravamo tutti davvero ed era una compartecipazione, ovvero si stava tutti in piazza, lo slogan era chiaro, era contro il 41 bis ma contro tutte le galere, e da lì che si era partita e si era creata questa assemblea. Oggi c'è questa occasione, secondo me possiamo coglierla per provare a ritornare in piazza su un tema come quello del 41 bis, un tema in cui eravamo riusciti a rompere veramente un po' il silenzio che c'era attorno a questa cosa. Secondo me possiamo provare a cogliere la palla al balzo e con l'occasione dell'udienza del 3 luglio, comunque con le prossime udienze che comunque ci saranno, provare a sia mostrare della solidarietà vera, sia provare a tornare sotto le carceri o comunque provare a rimetterci in quei percorsi che comunque avevano dato tanto alla città di Milano. Dottore, avvocato, vuole qualcosa? Io dico due cose in modo abbastanza breve, giusto per ricordarci che non solo c'è stato il corteo di Milano, ma in tutta Italia tantissime tantissime compagne si sono mossi a sostegno della lotta di Alfredo, dello sciopero della fame di Alfredo, e quindi ad oggi, in questo anno che è passato, in questi mesi, stanno arrivando anche tanti altri procedimenti repressivi in altre città d'Italia. Sicuramente ne citerò alcuni, sicuramente non tutti, ma giusto per avere un po' un'idea di quello che, insomma, che sta succedendo anche un po' attorno a noi. Solo nel mese di aprile ci sono state due operazioni repressive, la prima a Torino, la cosiddetta operazione City, che prevede 19 misure cautelari tra obblighi tra arresti domiciliari, obblighi di dimora e firme, divieti di dimora, per 19 compagni e compagne che sono accusati di devastazione e saccheggio per aver partecipato al corteo del 4 marzo a Torino. E oltre a questi compagni per i quali sono state chiuse le indagini e si aspetta rinvio a giudizio, ci sono anche altri compagni che stanno appunto aspettando la data di un appello sempre relativo a questa giornata qui per capire se verranno date altre misure cautelari. E, sempre a Torino, tra l'altro subito dopo la fine della campagna, a luglio scorso, sono stati dati due obblighi di firma che successivamente sono diventati tre per altre situazioni, per il corteo del 5 dicembre, quando eravamo andati avanti al tribunale perché appunto c'era una delle udienze in cui Alfredo partecipava in videoconferenza, aveva fatto delle dichiarazioni, e per altri fatti accaduti nella città di Torino, come l'interruzione di una messa e degli imbrattamenti in altri luoghi della città, e anche per questo sono state chiuse le indagini a carico di 36 persone. Sempre invece ad aprile di quest'anno c'è stata un'operazione repressiva a Bologna che prevede un obbligo di dimora con rientro notturno e firme, e due obblighi di firme, e quindi sono implicate in questa operazione al momento tre compagne e compagne, e questo per il danneggiamento ad un cantiere che circondava la gru sulla quale sono saliti per portare solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo, quindi un po' quello che era successo anche a Milano a novembre, come veniva detto prima, e per alcune azioni avvenute durante la campagna di solidarietà. E per esempio questa indagine è ancora aperta, e quindi al momento non si hanno grandi elementi, perché appunto bisogna vedere se verranno coinvolte altre persone o come verrà chiusa l'indagine. E poi nel resto d'Italia comunque ci sono stati conclusioni indagini anche di processi o comunque di per situazioni un po' più piccole. Per esempio a Roma faranno un presidio lunedì mattina in Piazzale Clodio proprio perché due compagni andranno a processo per aver fatto delle scritte il 24 febbraio, il giorno dell'udienza di Cassazione di Alfredo. E anche sempre a Roma è arrivato anche un altro procedimento del quale non si sa ancora la data del rinvio a giudizio per i fatti di Capodanno, che non so se ci ricordiamo, quel famoso presidio di fronte alla DNA. E anche in altre città d'Italia poi ci sono stati vari cortei e manifestazioni. Volevo ricordare quello dei compagni di Giulianova, perché appunto ci avevano fatto sapere che il processo inizierà ad ottobre ed era stato semplicemente un corteo di una manifestazione di solidarietà ad Alfredo, e quindi un processo per manifestazione non autorizzata, violenza, resistenza, insomma comunque i reati comuni che la controparte ci accalappia durante i cortei. E diciamo un po' questi sono un po' i procedimenti che noi avevamo in mente. Sicuramente ne partiranno altri, sicuramente ce ne saranno altri che mi sono dimenticata, però insomma è giusto per ricordarci che comunque questa cosa, come la lotta per lo sciopero della fame di Alfredo, è stata molto forte in tutta Italia, adesso la controparte reagisce, quindi anche la repressione si farà sentire e non solo qui. Va bene, allora per quanto riguarda un aggiornamento sul Beccaria farò tutto il contrario della disamina che ha fatto Martina, non sarò precisa su tutti gli avvenimenti che hanno interessato il Beccaria, anche perché appunto non è un fatto esclusivamente recente, no? Di quelle che sono proteste, evasioni all'interno del carcere o comunque torture, no? Che avvengono all'interno di quella struttura, sono anni che comunque si viene a sapere, no? Di avvenimenti all'interno del carcere. Sicuramente quelli che sono state rese pubbliche il 22 aprile con appunto questa indagine che viene aperta nei confronti dei 25 agenti all'interno del carcere Beccaria accusati per maltrattamenti, torture di vario genere e abusi, diciamo che ha scalfito un pochino quella che è la cronaca dei quotidiani e ha fatto anche un po' scalpore. Difatti appunto il 22 aprile viene aperta questa indagine, c'è un processo in corso nei confronti di agenti che vengono inizialmente durante il riesame vengono messi ai domiciliari per poi andare a ricoprire anche altre funzioni, come sappiamo, quando appunto vengono fuori degli scandali, no, da parte degli agenti di custodia all'interno del carcere, a cui vengono dati altri ruoli all'interno, no, della polizia penitenziaria. Difatti molti di loro sono stati reintegrati, altri hanno avuto altri ruoli all'interno dell'amministrazione, ma comunque quello che rimane sono appunto le torture che avvengono quotidianamente all'interno di quel carcere, che vediamo avere un livello di sovraffollamento non indifferente, che diciamo rimane coerente al sovraffollamento delle carceri italiane, non solo degli IPM, ma anche appunto basta guardare San Vittore, che scopriamo da alcuni dati di Antigone che raggiunge il 233%. Questo avviene anche all'interno del carcere Beccaria, un carcere appunto che in linea teorica dovrebbe avere 70 posti, ma che all'oggi conta 82 reclusi all'interno. Una notizia che era uscita tempo fa, ma che comunque conosciamo, sono i lavori, no, che interesserebbero le ale del carcere Beccaria. Difatti la struttura ha una parte che è stata chiusa da anni, ci sono lavori che dovrebbero essere fatti da 16 anni a questa parte, questo ha portato anche a dei trasferimenti di massa, dei reclusi dentro. Difatti prima quella che era la sezione femminile al momento non è agibile, le ragazze sono state tutte trasferite in altri carceri e quell'ala rimane chiusa. Molti dei giovani della sezione maschili invece vengono trasportati anche a scopo punitivo, diciamo come risposta punitiva, in altre carceri, soprattutto nel sud Italia. Quindi diciamo che ad alloggi la situazione è un po' questa. Non vado a fare appunto una disamina di tutti gli eventi che sono accaduti nell'ultimo periodo, perché c'è un continuo susseguirsi, no, di proteste o comunque anche evasioni. L'ultima, se non sbaglio, è relativa al 30 maggio, un tentativo di evasione. Non mi ricordo se anche due settimane fa c'è stato un tentativo dalle cooperative che comunque sono lì accanto, ma comunque diciamo che la tensione, l'aria che tira non è delle migliori. Io la cosa che penso sia interessante andare a guardare anche di fronte a una presenza, no, di solidali e solidarie che nell'ultimo periodo sono andate lì davanti, difatti subito dopo la notizia, no, del 22 aprile, quando appunto scatta questa indagine, questa operazione nei confronti degli agenti di penitenziaria, è stato subito chiamato un presidio lì davanti, che poi si sposta appunto sul retro del carcere, perché appunto il carcere Beccaria si trova nella zona Bisceglie, penso che tutti avete un po' l'idea spaziale, no, di questo luogo, che consente però dall'altra parte di poter avere un contatto diretto con i ragazzi, poter parlare con loro anche senza l'ausilio di una cassa. Difatti le ultime volte che siamo andati abbiamo anche avuto l'opportunità e l'occasione di conoscere dei giovani, degli amici, che quotidianamente o comunque da come dicono loro, soprattutto la domenica, si trovano lì davanti per poter parlare e dare un saluto ai loro amici. Un dato che appunto secondo me è interessante è quello che è relativo alla composizione all'interno del carcere, che dovrebbe dare un po' anche un ragionamento, no, su quella che è la popolazione all'interno delle strutture detentive a Milano e non solo. Appunto all'interno del Beccaria al momento ci sono 82 detenuti, 20 sono di provenienza italiana, il resto sono ragazzi stranieri. Molti di loro sono all'interno perché sono minori non accompagnati e quindi al di fuori di quelle mura non hanno né una rete né una famiglia che possa portare sostegno, anche banalmente dei pacchi o poter fare dei colloqui. Sono dei ragazzi anche che non hanno i documenti e che nella loro vita hanno fatto dei passaggi all'interno della Fortezza Europa tra centri di detenzione o comunque cooperative o associazioni di vario genere, e che al di fuori appunto non hanno chissà quali contatti, no? E che si trovano di fronte anche a una barriera linguistica. Questa abbiamo scoperto che è molto difficile poter dialogare con loro, perché la maggior parte è di popolazione araba proveniente dal nord africano, e quindi anche poter avere uno scambio, interagire con il dentro risulta difficoltoso dal momento in cui non hai una capacità, no, dialettica di lingua. Quindi questo diciamo che è un aspetto che, su cui poter ragionare, no? Che appunto riguarda l'aspetto della composizione, anche perché i ragazzi che sono dentro, diciamo che è una minimissima percentuale, all'oggi stanno scontando delle condanne definitive, tutti gli altri sono in misura cautelare oppure perché appunto non hanno sono minori non accompagnati o in minima parte anche per aggravamenti di misure precedenti. Naturalmente, ecco, questo secondo me è un dato che dovremmo tenere a mente, perché dà anche un po' uno spaccato su quella che è la società d'oggi, no? E su, dato che anche Tommaso parlava di proletariato e sottoproletariato qui, no? Anche nelle fasce più giovanili troviamo proprio contatto con questa sfera e secondo me bisognerebbe ragionare, no? Anche in funzione per poter avere una presenza di sotto che possa essere una presenza non solamente simbolica, che possa incidere in qualche modo e che possa avere uno scambio, no, tra il dentro e il fuori per far sì che venga spezzato quello che è il principio del carcere, ovvero, no, l'isolamento. Quindi secondo me questo è un dato abbastanza non indifferente. E quello che si è fatto appunto nell'ultimo periodo è stato cercare di tornare lì sotto. Con diverse compagne abbiamo tentato questa presenza, abbiamo anche conosciuto appunto dei ragazzi che quotidianamente si trovano lì e si sta cercando di mantenere questa presenza sotto al carcere, così da far anche uscire fuori, no? Quelle che siano le loro verità da dentro il carcere. Perché comunque in conseguenza a questa indagine, o comunque questo processo che sta avvenendo nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, quelli che si esprimono sono i sindacati di polizia che appellano, no, a questo numero inferiore di organico all'interno delle carceri, che comunque naturalmente, se vediamo al rapporto del sovraffollamento, pare più che logico che ci sia un organico che viene a mancare e che giocano su sede di interrogatori o su una facoltà di non rispondere o su una difesa basata su azioni di contenimento di quelle che sono situazioni di tensione all'interno del carcere, in un carcere in cui non c'è niente. Situazione che viene anche narrata non solamente da chi solidali e solidali che si trovano lì di fronte, ma anche dagli stessi volontari, dagli educatori che naturalmente sono sotto organico, ma anche da banalmente dai preti che delle cooperative che sono legate, no? Che hanno degli appalti con il carcere stesso, ci sono delle dichiarazioni anche pubbliche degli stessi. Quindi è dove si sta cercando anche di andare a guardare qual è quello che è lo scopo rieducativo sociale, no? dei giovani all'interno degli IPM. Un dato sicuramente non indifferente anche è quello del numero totale dei giovani reclusi all'interno delle carceri minorili. Se l'anno scorso a gennaio erano 380, se non sbaglio, numero più, numero meno, all'oggi siamo a 540 in tutta Italia. Va da sé inasprimento, comunque questa tendenza a incarcerare dei giovani minorenni all'interno delle carceri, la risposta, no, al decreto Caivano che nel settembre del 2023 viene emanato e che merita anche questo una riflessione maggiore insieme a tutti i vari decreti che vengono emanati nell'ultimo periodo e gli stessi che appunto sono in discussione, i vari disegni di legge che vengono messi sul tavolo dal Parlamento e dal governo Meloni. Quindi diciamo che questi sono un po' i dati relativi. Sarebbe appunto interessante continuare ad avere una presenza sotto a quel carcere, perché appunto se strutturalmente le carceri in determinati luoghi vengono poste ai margini della città per uno scopo ben preciso, per appunto andare ad alimentare, no, quell'isolamento, il carcere Beccaria è posto in una in uno spazio che consente comunque di poter dialogare e quindi cercare di continuare ad essere presenti, magari anche con degli interventi in lingua, e cercare, no, di ampliare il discorso e non farlo rimanere all'interno di quelle che sono delle cornici dei compagni e delle compagne. Ecco, insomma, questo sarebbe un aspetto interessante. D'altra parte, andare anche un po' a guardare quello che è effettivamente il lavoro dei sindacati di polizia e le dichiarazioni che vengono fatte. Difatti qualcuno proponeva anche, no, di porsi, no, nella condizione di seguire anche, no, questo processo, questo andamento del processo che vede imputati questi appunto 25 agenti di polizia, potrebbe dare anche, no, delle informazioni a livello di narrazione e di discorsi e riflessioni. Ciao, sono Anna e oggi leggo uno scritto che è stato realizzato come collettivo anarchico anticarcerario Bandiera Nera. È uno scritto, un comunicato di portata generale anticarcerario e si riallaccia poi anche a dei temi che sono stati toccati nelle assemblee precedenti a questa e anche a quest'oggi. In particolare c'è un accenno alla sanità all'interno delle carceri e anche quella allo stato della stessa fuori dalle carceri. Consideriamo qualsiasi condizione di internamento forzato, volta alla ghettizzazione di chi viene considerato scarto sociale, inaccettabile. La sola concezione di confinare in modo coatto un essere vivente viene percepita dai nostri sensi come altamente nociva alla comunità nella quale vogliamo vivere. Rifiutiamo il disciplinamento dell'individuo dalla società sedicente democratica attraverso l'istituzione detentiva che pretende di addestrare il prigioniero a diventare un bravo cittadino. Un automa dotato di quel controllo di sé che si traduce nel rispetto dell'ordine morale, inteso come apice della razionalità raggiungibile dall'essere umano. Il carcere è la struttura portante attraverso cui lo Stato non solamente punisce, ma si vendica di chi non si adegua al suo particolare concetto di autocontrollo. La nostra lotta politica vuole contrastare il ricorso alle varie declinazioni dell'esclusione perpetrate all'interno del cosiddetto Stato di diritto. La persona internata in regime di 41 bis si trova in una condizione di ulteriore assoluto isolamento rispetto alla detenzione ordinaria, unita alla rigidità delle condizioni carcerarie alla quale si accompagna la drastica riduzione dei contatti con il mondo esterno. Ciò genera nel soggetto importanti problemi di natura psicologica, probabile causa del maggiore tasso di suicidi tra i detenuti in regime speciale rispetto a quello già di per sé molto alto tra i detenuti in regime ordinario. Guardando l'attuale deriva del sistema sanitario pubblico, viene da chiedersi chi debba provvedere alla salute della persona al di fuori del carcere. Ora ci chiediamo a chi spetta il compito di prendersi cura della salute della popolazione carceraria? Lo Stato dovrebbe assicurare che la salute e il benessere della persona detenuta siano adeguatamente garantiti e che essa possa beneficiare, quantomeno, degli stessi standard di cura disponibili per la popolazione non detenuta, senza discriminazioni legate allo status giuridico. Dal momento che il sistema sanitario nazionale è da tempo oggetto di tagli del finanziamento pubblico e che si trova in stato di collasso, le possibilità di essere sottoposti a visite mediche, diagnosi e cure appropriate e tempestive sono sempre più precluse alla popolazione non detenuta, così come a quella internata. Patologie considerate ordinarie fuori dal carcere, patologie infettive, patologie più complesse e croniche come quelle neurodegenerative e psicopatologiche, quando non vengono trascurate, vengono trattate con estrema difficoltà. Per mancanza effettiva di personale e di strumenti adeguati o per l'intervento di personale impreparato. Persino nelle condizioni di internamento ordinario, a tutt'oggi non risulta possibile rispettare le più essenziali norme di igiene all'interno di uno spazio vitale, compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati, viste le condizioni di sovraffollamento in cui versano le gli internati, ne risulta possibile il mantenimento delle distanze in presenza di patologie trasmissibili. Per non parlare della crescita della composizione anziana e della popolazione carceraria afflitta da malattie non trasmissibili per le quali il carcere non garantisce la terapia salvavita. Nell'incontrastato dominio della tetra religione del consumo, secondo la quale il valore della persona è quella che essa produce attraverso la schiavitù del lavoro e quello che essa spende nei suoi squallidi templi luccicanti, lo Stato ha delegato al capitale la funzione di curare, di educare e di gestire il territorio e l'ambiente secondo i suoi esclusivi fini. Per sé vorrebbe mantenere il solo ruolo di controllore, di carceriere, di vendicatore e di livellatore. Solo abolendo il capitale e lo Stato, dopo averli privati della feroce arma del carcere, sarà possibile quella palingenesi dei rapporti umani e sociali alla quale aspiriamo e per la quale lottiamo. Scusate se l'ho letto, ma non volevo che nulla fosse dimenticato o trascurato. E quindi come collettivo anarchico e anticarcerario collettiva Bandiera Nera porteremo avanti il nostro impegno, il nostro supporto alla lotta anticarceraria, auspicando ovviamente una ripresa ampia delle attività di piazza e poi in futuro poi organizzeremo anche degli eventi proprio sui temi, e tra i quali vorremmo approfondire appunto anche con questo comunicato intendiamo impegnarci nel farlo la questione proprio della sanità all'interno degli istituti di pena e di reclusione. Ho finito. Karim, dei giovani palestinesi. Ciao a tutti, sono Karim di Giovani Palestinesi e praticamente volevo parlarvi adesso sulla repressione che stiamo vissendo a Milano, facendo le nostre mobilitazioni, anche quella che viviamo ogni giorno sia da seconda generazione o anche i nostri compagni palestinesi, come si trovano spesso a minacce di denunce soltanto per esprimere la loro parola verso i palestinesi e verso la Palestina. Anche ultimamente nei nostri cortei, come è successo nel 25 aprile, ci sono stati dei ragazzi che hanno avuto i fogli di via, e anche abbiamo avuto un ragazzo che è andato in CPR per le manifestazioni del 25 aprile, e questa cosa sta aumentando ultimamente su ogni mobilitazione che facciamo, sia su Milano ma anche in tutta Italia. Il livello di repressione in piazza, ma anche post piazza, con tutte diciamo le minacce di denunce, come sia successo in statale, soltanto per l'espressione della nostra solidarietà con la Palestina e la resistenza. E infatti questo è quello che ci sta provando questo governo fascista, sta provando a portare avanti, è proprio la condanna alla solidarietà della resistenza. La condanna alla resistenza in sé è essere terrorismo, e noi terroristi, perché lo stiamo sopportando, oltre che sappiamo tutti che la resistenza palestinese è una resistenza legittima per la libertà del loro popolo e della loro terra. Ultimamente dico questo perché, come sappiamo, Ali e Anan e Mansour sono detenuti ormai da anni nel carcere, aspettando le udienze, il processo per l'estradizione a Israele. Questa estradizione è un'estradizione per la morte, per la tortura in Israele. E ultimamente noi stavamo aspettando un'udienza che dovrebbe essere fatta fino a settembre, l'hanno anticipata all'11 luglio. L'hanno anticipata per anticipare questa condanna di terrorismo a tutti noi e soprattutto loro. Per chi non sa, Ali Anan Mansur e Anan Mansur, posso, secondo me le sue parole saranno più spiegativi, posso leggere la sua lettera mandata dal carcere. Ciao a tutti coloro che leggeranno questa lettera, a tutte le sorelle e i fratelli tra gli studenti, in Italia e ovunque nel mondo, che preferirei chiamare la voce della libertà. Dato che voi siete realmente questa voce, siete tutti come leoni, voi siete i veri combattenti per la libertà e per chi difende l'umanità in questo mondo. Siete tutti arrivati con luce e speranza dopo tutta questa vita buia e causa di questo governo e dello schifo politico in questo mondo. Cara famiglia, sarei contento se mai accettaste come parte di voi. Ho desiderato ogni giorno di fare parte di questa grande battaglia che fate ogni giorno. Sì, sono un combattente, ho vissuto molte cose in questa vita, ma non ho mai vissuto un cuore con tutto questo amore che avete tutti per la Palestina. Car, non pensiate neanche per un momento che ciò è che avete fatto e fate qualcosa di normale e qualcosa di molto importante per noi, e sono sicuro che aiuterate la Palestina e tutti i palestinesi. Ovunque nel mondo, fin tanto che aiutate, che resistete in Palestina, perché dopo aver sentito che tutto il mondo lì lasciava solo, siete tutti venuti a dar loro la forza per continuare a combattere. Avete dato loro molto sentimento, amore e sostegno, quindi siete parte di noi e siamo la stessa cosa, senza differenza. Sotto il cielo in tutto il mondo lotteremo finché non raggiungiamo la libertà. In tutta la storia, se torniamo indietro nel passato, così come ora e come sarà in futuro, tutta la politica, la libertà, le guerre e le pace è venuta dallo studente, perché siete la pietra angolare di questo paese. Quindi continuate così. Come ho detto prima, io e tutti i partigiani in Palestina siamo parte di voi. Prendiamo la nostra forza da voi tutte. La storia ricorderà per sempre se perdiamo o vinciamo. Non è importante, perché la guerra non finirà mai e noi non abbiamo finito. Apriamo la strada agli altri per continuare alla fine a raggiungere la vittoria. Cara amica e famiglie, ho condiviso quasi tutta la guerra in Palestina dal 2001 a oggi. Sono stato in varie prigioni in diversi paesi: Israele, Palestina, USA, Giordania e ora in Italia. Ma non sono mai stato così convinto della vittoria come ora, perché fin quando ci sono delle studenti leoni come tutti voi, noi non ci arrendiamo mai. Non mi interessa della prigione ora, perché sono come tutti i miei fratelli che sono in prigione in Israele, e tutti noi pensiamo che la Palestina merita da noi più di quanto gli stiamo dando. Vorrei dire grazie a tutti voi anche se so che una grazie non è abbastanza, ma sono sicuro che meriterate il meglio in questa vita. Un giorno conquisteremo la nostra libertà, sono sicuro di questo, ma quel giorno non condivideremo la nostra gioia con chiunque, solo con voi e chiunque sostegna e lotti per noi, perché voi sarete la ragione di quella vittoria. L'Italia come paese e come popolo ci ha dato ogni volta una nuova lezione di libertà, e non parlo del governo che aiuta Israele mandando fucili e bombe per uccidere il nostro popolo a Gaza e nel West Bank. In ogni caso, cari, continuate, siamo sulla strada giusta per la libertà, non solo per la Palestina, ma per chiunque le merita nel mondo. Con tutto il mio augurio e con tutto il mio amore per tutti voi. Non mollate mai, continuate. From the river to the sea, Palestine will be free. Questa era l'ultima lettera arrivata da Anan per sostenere anche il movimento studentesco che sia stato ultimamente. Io vorrei dire che è molto importante essere a sostegno di Anan Ali, a sostegno che tutti che sono in prigione in questo momento, che stanno aspettando questo processo, perché come ho detto prima stanno condannando proprio la nostra mobilitazione qui. Vogliono anticipare a etichettare noi come terroristi e anticipare portare i ragazzi in Israele affrontando la tortura di Israele. L'11 sarà l'udienza, stiamo pensando di fare i presidi in tutta l'Italia, ma il 6, anticipando l'udienza, ci sarà il corteo a Roma. Vogliamo invitare tutti di stare a fianco a questi prigionieri e a scendere a Roma per il corteo il 6. Grazie. Allora, vai. Presentiamo l'appello. No, meglio di qua perché c'è Larsen che ci... Allora, una piccola premessa. Ho pensato come presentare l'appello, se riproporlo spiegando ogni singolo passaggio che troverete poi nell'appello e lì sopra, quindi potete leggere. Ma ci ho ripensato e ho ritenuto che fosse magari più stimolante partire da alcune domande e criticità che sono state poste da chi l'appello l'aveva già letto e con cui avevamo in parte già discusso, o da interpretazioni che ne erano state date, a partire dalle domande che riguardavano per esempio da dove veniva fuori questo appello. L'appello è frutto di più teste e più mani che non sono riconducibili a una situazione specifica e non sono riconducibili anche a soggetti che fanno parte di situazioni che sono anche strane a delle situazioni di lotta o direttamente a situazioni di lotta o di movimento. Perché adesso su quali contenuti e perché? L'ho scritto perché sennò mi perdo in 30.000 incisi, poi mi criticano i compagni, quindi evito di farlo. Non vi spaventate, sono caratteri 18, quindi sì, è molto veloce. E la cosa che poi mi interessava era quello di dare trasmettere le riflessioni e il ragionamento che hanno portato alla costruzione di questo appello e ai contenuti che sono al suo interno. Quindi parto dalle riflessioni che sono state fatte rispetto alle domande che sono state poste per arrivare poi a contestualizzare questa cosa e questa riflessione che è partita già da più di un anno, ma che era già da tempo che in più momenti ci si poneva la necessità, l'importanza di far uscire dal silenzio e portare all'attenzione la questione dei prigionieri che dal secolo scorso, perché parliamo del 1980, alla fine degli anni 80, sono rinchiusi in galera. Stiamo parlando di compagni delle VR in galera da oltre 40 anni e di tre rinchiusi al 41 bis da oltre 20. La difficoltà, lo scoglio da superare però era come, dove, in che forma e su quali contenuti che non risultassero ideologici e quindi aleatori ed impraticabili perché strani ai movimenti esistenti. fatti, alle sue istanze e contenuti, quindi ad una dialettica con le lotte, o che cadessero in un approccio umanitaristico che non fa chiarezza sui motivi di questa lunga permanenza di quell'accadimento. Cosa che invece negli anni 70-80, no, contenuti, pratiche e condivisioni condivisione erano patrimonio delle lotte dei movimenti, no? In tutte le sue forme e espressioni, no? Quindi tra dentro e fuori c'era, non si presentava il problema che abbiamo oggi di come far vivere queste lotte, perché erano parte integrante di quel processo di avanzamento che la classe stava facendo. Altro aspetto importante era come evitare che il problema si avviluppasse e chiudesse intorno a questi prigionieri, affrontando la questione da un punto di vista puramente carcerario, slegandolo dal contesto socio-economico e dalla loro internità passata, ma vedremo ancora così attuale, alla lotta di classe che è l'origine di questa lunga permanenza. O, altra criticità, che si focalizzasse l'interesse riducendo la discussione alla questione della lotta armata o sulle scelte successive e non a quanto quell'esperienza abbia contribuito in quella fase storica all'emancipazione della classe e del movimento di classe intorno intero nella sua generalità e non solo in Italia, che si poneva in termini rivoluzionari un cambiamento della società, il cosiddetto assalto al cielo, quello che viene chiamato l'assalto al cielo, e che questo non aiutasse una riflessione su come contribuire a trovare una prospettiva alle lotte, seppur importanti, ancora molto fragili e spesso parziali e locali, che abbiamo adesso. Ma soprattutto un affrontamento del genere non avrebbe aiutato alla comprensione una generazione che anagraficamente è distante da quegli anni a cui si fa riferimento, gli anni 70 e 80, a causa, non perché siano stupidi, ma a causa proprio di un vuoto politico, sociale e culturale che si è creato dagli anni 90 in poi. E questa cosa è una cosa che è emersa molto forte, per esempio parlando con i ragazzi giovani delle scuole medie superiori e universitari a Firenze, che è una delle prime cose, cioè di un vuoto totale di conoscenza rispetto a cosa ha significato quel periodo e questo assalto al cielo. La lotta di Alfredo, con tutto il portato di discussione, analisi, iniziative e solidarietà attiva che ha creato e che si è espressa in forme e modi diversi, è stato sicuramente uno stimolo e una spinta importante che ha aiutato a far chiarezza su come impostare, inquadrare e contestualizzare questa problematica, che ha preso forma in quello che si propone come appello. Chiaramente un'altra spinta molto forte è quella che è venuta dalla nuova situazione che si è creata dopo il 7 ottobre con la resistenza palestinese, che ha aperto comunque delle possibilità non solo in Palestina ma in tutto il mondo, con una partecipazione attiva di solidarietà che però sta mettendo anche in parte in crisi, no, i governi degli stessi paesi in cui le cose avvengono, quindi apre delle crepe molto interessanti su cui lavorare. Cioè, è stato chiesto, è stato posto se l'appello sia stato, se nella, per l'appello siano stati coinvolti i prigionieri detenuti, cioè sì, prigionieri. Allora, premesso che per chi ha stilato l'appello, i compagni devono uscire tutti in maniera incondizionata dal carcere, e questo è una cosa evidente, anche se non c'è scritto, però appare palesiano, insomma, non emerge chiaramente. Poi ognuno può interpretarlo come vuole, fare, cioè, decidere, vuol dire, via le vie che vuole, però comunque per noi è questa cosa. La realtà dei prigionieri oggi non è una realtà diversa da quella degli anni 70-80, perché non c'è un dibattito di un'espressione collettiva fra i prigionieri. Quindi già questo sarebbe stato uno scoglio molto difficile da superare, no? Il problema è anche che questo appello, oltre a non chiedere una presa di posizione da parte dei prigionieri, perché non si fonda su degli obiettivi specifici potrebbero essere chiamati in causa, no? Ha l'obiettivo pone, scusate, quindi non li coinvolge direttamente, non parla a nome dei prigionieri, parla dei prigionieri per parlare della situazione di oggi fondamentalmente, per ristabilire una verità storica dove questi prigionieri sono collocati, per comprenderne l'utilizzo che lo Stato fa di loro ancora oggi in funzione di monito ed esercizio di potere verso le lotte, con lo scopo di spezzare e impedire lo sviluppo di ogni pensiero critico e idea che cambiare questo modello economico e sociale possa essere possibile, ancora di più oggi in cui comunque le contraddizioni oggettive sono ancora più forti e globalizzate. L'appello si propone di rompere un tabù, perché il tabù si regge sulla paura e produce silenzio. Un silenzio che fa bene però solo allo Stato, perché non si mette al servizio del movimento, la resistenza e quindi il suo significato di questi prigionieri. Prigionieri che sono espressioni di un movimento storico, quello degli anni 70-80 del Novecento, che è stato decisivo nello scontro sociale in Italia e nel mondo, e la cui resistenza a tanti anni di prigionia testimonia la forza di quel movimento che sconvolse l'Italia per più di un decennio. Per chi anagraficamente non ha vissuto quegli anni e per rispolverare anche un po' la memoria, ho riportato un dato per dare anche la dimensione di quel movimento e di cosa ho voluto dire. Tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80 finirono in galera circa 6.000 compagni e compagne. Gli inquisiti furono circa 20.000, 15.000 gli anni comminati e 100 gli ergastoli. In Italia questo, eh. Ed è proprio per rimuovere questa stagione di lotte che si vuole silenziare la loro resistenza. Ma non si ferma qui l'opera dello Stato, non è solo un problema di silenziare questa resistenza, ma quindi di rimuovere in qualche modo quegli anni in qualche modo devono essere rimossi, e oltre ad essere rimossi devono essere mortificati e criminalizzati, facendoli passare come anni di piombo, no? Questa è la terminologia che ha sempre usato il potere e continua ad usare. Nel caso di questi prigionieri si spera che la pressione esercitata da una lunga e dura prigionia li convinca a contribuire a questa opera di mistificazione storica, e allora sì che si romperebbe il silenzio su di loro e i media farebbero veramente festa. Una conferma di ciò sono i continui tentativi recenti, no, di catturare in giro per il mondo chi era scampato alla galera, per riportarli qui poi come dei trofei, no? Una situazione di fuoco, su cui esercitare poi il ricatto di uno sconto di pena per estrapolare qualche dichiarazione spendibile mass mediaticamente che mette in cattiva luce quel periodo e quella fase storica. In realtà i veri anni di piombo, così come abbiamo riportato anche nell'appello, per i lavoratori, i disoccupati, gli studenti e tutti gli oppressi furono gli anni del dopoguerra, a fine anni 60, quando le condizioni di lavoro erano durissime, i salari bassi e gli orari di lavoro lunghi, nelle scuole regnava l'autoritarismo, le case erano un lusso, la sanità si pagava cara, le istituzioni totali, carceri, manicomi erano dei lager, e alle manifestazioni venivano uccise dalle forze dell'ordine, tra virgolette, o dai fascisti al loro servizio, operai, studenti, braccianti e disoccupati. È in questa situazione che a fine anni 60 la risposta fu la ribellione, che investì dalle scuole all'università alle fabbriche, ai quartieri popolari, alle carceri e agli ospedali. Nei cortei si gridava ribellarsi è giusto, vogliamo tutto e subito, si parlava di abbattere il capitale, di fare la rivoluzione. E come già un secolo fa faceva notare un famoso rivoluzionario russo, una ricaduta secondaria delle lotte rivoluzionarie sono le riforme. Perché se la lotta per le riforme di per sé non paga, di fronte alla lotta rivoluzionaria la classe al potere si spaventa e fa delle concessioni, sperando di salvare così l'essenziale del suo dominio. E così, insieme alla denuncia, agli arresti e alla repressione contro chi lottava, alla strategia della tensione con le stragi a suon di bombe per spaventare la gente, presentare lo Stato come unico difensore dell'ordine, lo Stato avviò importanti riforme sulla sanità, sulla scuola, l'università, le case, le carceri, i manicomi. Fu istituita la scala mobile per difendere i salari dall'inflazione e nelle fabbriche si allentò il controllo gerarchico sui lavoratori. Ci fu l'introduzione dell'aborto, il divorzio, eccetera, eccetera, che penso che molti ne sappiano. e ci sono voluti più di 40 anni perché il potere, in mancanza di lotte, riuscisse a rimangiarsi tutte queste conquiste che erano state fatte, in parte concesse, ma in parte strappate. Una parte di quel movimento, grande movimento, però voleva andare alle radici del sistema sociale dominante e portare la rivoluzione fino in fondo. Lo fece prendendo esempio soprattutto dalle lotte di liberazione dei popoli del sud del mondo, dalla guerriglia di Che Guevara, dai Viet Cong, dai Fedayeen palestinesi, dalle guerriglie che dall'Algeria alle colonie portoghesi cacciarono via i colonialisti dall'Africa. Quella parte del movimento cercò di portare la guerriglia rivoluzionaria nel cuore delle metropoli del centro capitalista. Di questa esperienza, che non fu solo praticata in Italia, ma anche negli USA, in Germania, Francia, Spagna e Grecia, fanno parte dei prigionieri di cui stiamo parlando. Ma allora uno si chiede, ma come mai lo Stato italiano ancora oggi, dopo più di 40 anni, teme ancora così tanto quel ciclo di lotte? La risposta bisogna cercarla nella crisi economica, sociale e politica che investe oggi il capitalismo occidentale nel suo insieme, una crisi peraltro avviatasi proprio a fine degli anni 60, ma che nel nuovo millennio pare essere arrivata ad una svolta drammatica. Percorriamo solo brevissimamente alcune tappe di questa cosa, perché sono fondamentali per capire questo accanimento, questo interesse che ha lo Stato comunque nel mantenere ancora questi compagni dentro. Negli anni Ottanta fu messa in atto una grande ristrutturazione dei processi produttivi, soprattutto al fine di ripristinare il controllo sulla classe lavoratrice, nel tentativo di riprendersi quanto le lotte degli anni precedenti avevano conquistato e ripristinare il pieno controllo sulle classi subalterne. La crisi non venne superata, ma il crollo dei paesi socialisti dell'Est a fine anni Ottanta sembrò aprire un varco, uno sbocco per uscirne. Da un lato, rendendo possibile lo sfruttamento dell'immensa riserva di lavoro, di forza lavoro qualificata a basso costo presente in quei paesi, usandola tra l'altro come arma di ricatto per imporre alla forza lavoro interna ai paesi capitalisti occidentali precarietà e taglio allo Stato sociale. E dall'altro, rendendo possibile il pieno sfruttamento delle materie prime disponibili nel sud del mondo. Questo nuovo dominio su scala globale non fu raggiunto senza guerre devastanti, seppur localizzate, come quelle in Jugoslavia o la prima guerra in Iraq del 90. Ma questa nuova era, definita globalizzazione, in cui pareva ormai dominare senza intralci il capitale occidentale, nel nuovo millennio mostrò l'altra faccia della medaglia, perché emersero nuove potenze che intorno proprio all'ombra di questa globalizzazione che si radunarono intorno in modo particolare alla Cina e i cosiddetti BRICS. E anche nei paesi saccheggiati delle loro materie prime, soprattutto nel Medio Oriente allargato, si sviluppò una resistenza che aveva come protagonista soprattutto le forze islamiche, ma non solo. L'aggravamento della crisi del capitale occidentale nel 2007-2008, un altro momento importante, portò a un'accelerazione di questi processi. In particolare l'Occidente imperialista cercò di accerchiare economicamente, politicamente e anche militarmente le potenze emergenti per impedire che diventassero pericolose concorrenti e per ripristinare il dominio occidentale a livello globale, necessario a superare la crisi. Le guerre scatenate nel Medio Oriente allargato contro quegli stati o entità che rifiutavano il nuovo ordine globale, Iraq, Afghanistan, la Libia, sono la risposta militare a questa necessità. Ma non solo l'Occidente è stato sconfitto in queste guerre e nel suo tentativo di frenare le potenze emergenti, bensì ha anche suscitato, in una realtà in cui i rapporti di forza tra l'Est e il Sud del mondo da un lato e l'Occidente dall'altro si erano andati ridefinendo, una reazione inattesa anche da parte dell'Est, con l'attacco russo all'Ucraina e sia del Sud con l'attacco dei palestinesi ad Israele. E anche le rivolte popolari che hanno cacciato l'esercito coloniale francese dall'Africa del Sahel, quindi Mali, Niger, Burkina Faso, eccetera. La guerra in Ucraina e quella in Palestina stanno aggravando la crisi economica, sociale e politica in Europa e in USA, e si parla ormai esplicitamente del rischio di una guerra globale e quindi della necessità di instaurare una vera e propria economia di guerra, i cui costi, in questa situazione di crisi e guerra, viene sempre più verrà chiaramente riversata sulle classi dominate degli stessi paesi occidentali imperialisti, implicando pesanti ristrutturazioni produttive, magari dipinte di verde, con una crescita dello sfruttamento e ulteriori tagli ai servizi sociali. E qui cosa c'entrano i prigionieri? Da qui viene il timore da parte degli stati capitalistici occidentali di un nuovo assalto al cielo e la necessità di prevenirlo con un indurimento della repressione contro ogni forma di resistenza a livello sociale e politico. Un vero e proprio stato di polizia con nuove leggi di sicurezza, manganellate, denunce e arresti. Se ne è parlato prima, quindi non le riporto. Così come quello che si è scatenato dopo il 7 ottobre, no? Questa accelerazione in termini di controllo e sicurezza di decreti, non ultimo, l'ultimo che deve essere approvato. Tra gli strumenti di questa attività di repressione preventiva c'è la politica attuata nei confronti dei prigionieri delle BR. Obiettivo è fare diventare strumenti di una vera e propria guerra sulla memoria, tesa a cancellare l'idea stessa di una lotta per una reale alternativa a questo sistema economico, sociale e politico. Alternativa che gli anni e il momento storico di cui questi prigionieri sono espressione incarnano. Solidarizzare con questi prigionieri, rompere il silenzio sulla loro esistenza, farli vivere nelle nostre lotte, vuol dire negare il racconto ufficiale su quell'assalto al cielo, come Karl Marx definì l'esperienza della Comune di Parigi, e riaffermare il principio che ribellarsi è giusto, che è possibile un'alternativa, cambiare questo sistema classista, iniquo e guerrafondaio. Rompere un tabù vuol dire affermare che quella storia appartiene alla classe degli sfruttati e a chi l'ha compiuta, e gli va ridata dignità e verità, ma anche e soprattutto che riguarda l'oggi, il futuro e la possibilità sempre più negata di esprimere un pensiero critico. Facciamo quindi della solidarietà a questi prigionieri uno strumento in più per dare alle nostre lotte quotidiane di resistenza sul lavoro, a scuola, nei territori, un orizzonte più ampio, una prospettiva di reale liberazione ed emancipazione da questo sistema di crisi, sfruttamento e guerra che ci porta solo alla barbarie. Quello che mi premeva a sottolineare era il contesto in cui quegli anni si sono sviluppati e quanto c'è e la paura che fanno ancora oggi in termini di possibile progettualità che possa esserci, per cui rompere il silenzio, rompere questo tabù che comunque da troppi anni c'è su questi prigionieri è fondamentale, del motivo per cui si è pensato di concretizzare la cosa sotto una forma di appello in cui si chiedono adesione, ma soprattutto in cui si riapre una riflessione e un ragionamento su quali possibilità ci si può dare, quindi più che altro è una riflessione, un ragionamento che si vuole mettere sul tavolo, insomma, no? Che possa essere utile all'avanzamento delle lotte, a togliere dalla parzialità che hanno e dalla mancanza a volte di prospettiva, di progettualità. E questo è quanto. Ecco, fin qua sono stati gli interventi che avevamo un po' previsto in scaletta. Gli elementi messi sul tavolo sono tantissimi. Il nesso, spero che almeno a livello generale sia chiaro, in qualche modo quello che proponevamo, diciamo, come elemento generale per l'Assemblea era quello di cercare di capire in che modo costruire dei nessi pratici, delle pratiche che potessero accomunare e legare queste esperienze e questi punti, diciamo, che hanno nella maniera un pochino a ventaglio costituito questa prima parte. Adesso c'è un intervento del compagno del Soccorso Rosso Internazionale. Allora, ciao a tutti. Allora, noi innanzitutto salutiamo con favore questa assemblea, si segna un rilancio di un'iniziativa allargata, forte, contro il carcere, contro il 41 bis, contro la repressione. Come compagni del Soccorso Rosso Internazionale esprimiamo la piena solidarietà ai 13 compagni sotto processo per i fatti dell'11 febbraio 2023, in occasione del corteo contro il 41 bis, in particolare in sostegno al compagno Alfredo Cospito, che portava avanti uno sciopero della fame già da diversi mesi. La solidarietà di classe nei confronti dei compagni colpiti dalla repressione perché lottano è importante perché va nel senso di ricomporre tutte le componenti del movimento, come diceva il compagno Tommaso prima. La solidarietà di classe nei confronti dei rivoluzionari prigionieri va nel senso di ricomporre tutte le componenti del movimento attorno a quei compagni, attorno a quei proletari che in un modo o nell'altro, con una linea o con l'altra, hanno portato avanti delle lotte cercando di alzare il livello dello scontro. Hanno portato avanti delle lotte cercando di assumere delle forme di lotta radicali, in questo senso rilanciando una prospettiva di cambiamento della società, una prospettiva di cambiamento del sistema, un sistema ormai fondato su devastazione, repressione e guerra. Sappiamo bene che gli stati, anzi le classi dominanti attraverso i loro stati, vogliono impedire assolutamente la ricomposizione di tutte le componenti del movimento attorno alla prospettiva rivoluzionaria, e agendo con la repressione politica, agendo contro i rivoluzionari prigionieri, agendo contro l'identità politica dei rivoluzionari prigionieri, contro quello che rappresentano, vogliono sicuramente mandare un messaggio chiaro, che è quello che la rivoluzione, un messaggio chiaro a tutti coloro che lottano, a tutta la classe, che la rivoluzione non si può fare, che il proletariato non si può emancipare. Ecco, per questo è importantissimo lottare contro la repressione, per quello diciamo salutiamo con favore questa assemblea e salutiamo l'iniziativa, se riparte un'iniziativa più generale contro la repressione. Importantissimo soprattutto in questo momento in cui le classi dominanti vogliono assolutamente affermare, vogliono stabilizzare un sistema di guerra, siamo in un sistema di guerra, e per fare questo vogliono soprattutto agire con la repressione contro ogni dissenso, contro ogni forma di lotta, perché devono pacificare un fronte interno. Ecco, adesso volevo leggere brevemente un intervento che abbiamo preparato per questa occasione, anch'io sarò abbastanza breve, cioè anch'io. Non era prevista una introduzione così. Allora, la questione del regime 41 bis è tornata alla ribalta prepotentemente a seguito dell'applicazione del 41 bis ad Alfredo Cospito, della sua lotta e della sua mobilitazione che ne è seguita. La finalità del 41 bis, massima espressione dell'isolamento carcerario, è quello di isolare il prigioniero rispetto all'esterno e colpire la sua determinazione. È bene chiarire che il 41 bis è stato progettato a livello strategico contro i rivoluzionari prigionieri. Lo scopo dello Stato è quello di colpire la loro identità politica, di spezzare il legame fra loro da una parte e il movimento, le avanguardie rivoluzionarie e la classe dall'altra. Lo Stato toglie il rivoluzionario prigioniero dal 41 bis solo se diventa delatore, rinnega e si arrende. È inoltre usato fortemente come forma di deterrenza per chi lotta all'esterno. Come detto in precedenza, il 41 bis è l'apice, ma ci sono altri livelli di forme di isolamento, come ad esempio l'alta sicurezza e il 14 bis. Contro il 41 bis si sono sviluppate mobilitazioni di solidarietà ai prigionieri sottoposti a questo regime. Lo Stato ha cercato in varie occasioni di colpire questa solidarietà. Esempi ne sono le indagini e i processi avviati contro decine di compagni, manifestazioni davanti al carcere di L'Aquila dal 2007 e poi nel 2018 sempre davanti allo stesso carcere, fino ad arrivare ai tempi più recenti nelle varie operazioni giudiziarie nei confronti di compagni e compagne per le mobilitazioni avvenute in varie parti d'Italia, in solidarietà ad Alfredo Cospito, come per esempio le denunce nei confronti di compagni di Bologna, Rovereto e Potenza, i divieti di dimora combinati a diversi compagni per il corteo di Milano dell'11 febbraio e da ultimo il processo, che inizierà il 3 luglio, contro 13 compagni accusati di resistenza aggravata, travisamento e danneggiamento relativo allo stesso corteo. In Italia l'isolamento carcerario rientra in un contesto di violenze, pestaggi e soprusi da parte delle guardie verso tutto il corpo prigioniero. Esempi sono i morti nel carcere di Modena, i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e recentemente i pestaggi e le torture avvenute nel carcere minorile Beccaria di Milano. Non è da oggi che l'isolamento carcerario viene applicato dagli stati imperialisti come vera e propria strategia contro le avanguardie rivoluzionarie. In Italia basti ricordare l'istituzione delle carceri speciali negli anni 70, l'applicazione dell'articolo 90, i famigerati braccetti della morte, l'uso di una vera e propria tortura fisica negli anni 80-82. Tra i tanti casi, il caso di Cesare Di Lenardo, tuttora detenuto, è emblematico. Fu sottoposto a scosse elettriche su tutto il corpo, genitali compresi. In perfetto stile delle dittature sudamericane, è adottato stabilmente nelle democrazie borghesi. Queste strategie sono state attuate anche a livello internazionale, come negli USA negli anni 60-70, come per esempio contro i militanti del Black Panther Party, in Germania contro la RAF, in Inghilterra contro l'IRA, in Spagna contro i prigionieri del PCE, dei Grapo di ETA, e in tempi più recenti in Turchia le celle di tipo F e ora con i carceri noti come SRY, in Grecia le celle di tipo C. Ci preme sottolineare che tutte queste forme di isolamento sono tuttora in atto in tutti questi paesi. In questo periodo va sottolineata con forza la resistenza delle migliaia di prigionieri palestinesi contro i pestaggi e le vessazioni quotidiane che dopo il 7 ottobre si sono fortemente acuite. Prigionieri che da sempre hanno avuto un ruolo fondamentale perché rappresentano la determinazione del popolo palestinese ad opporsi al sionismo. Gli stati imperialisti, per garantire la continuità del proprio sistema, devono ricorrere alla repressione nei confronti del loro nemico di classe, proletariato metropolitano. E questo spiega la repressione da un lato contro i lavoratori, studenti, immigrati che lottano per difendere e migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro e, dall'altro, contro comunisti, antiimperialisti, antifascisti e anarchici che si organizzano per combattere il sistema di oppressione e sfruttamento. In Italia di questi giorni la proposta del decreto legge DL 1660, ennesimo decreto sicurezza inteso a criminalizzare ed inasprire le pene nei confronti di chi lotta e si organizza. Tutto ciò rappresenta il fronte interno della guerra imperialista. Gli stati imperialisti in questo periodo hanno dato un'accelerazione alla guerra imperialista per far fronte alla loro crisi. Lo Stato italiano in ambito UE e NATO ha assunto un ruolo di primissimo piano nel conflitto russo-ucraino, come si vede dall'aumento delle spese militari, dall'invio di armi e denaro al governo ucraino, dall'addestramento di militari ucraini nelle caserme italiane, dal protagonismo nel business della ricostruzione in Ucraina e dal sostegno assoluto della linea guerra frontale del blocco occidentale contro la Federazione Russa, supportato anche da una massiccia propaganda massmediatica. Allo stesso modo, per ritagliarsi uno spazio nell'area medio orientale, lo Stato italiano sta appoggiando lo Stato sionista, inviandogli armi e partecipando con un ruolo di primo piano alla missione militare nel Mar Rosso. Contro tutto questo occorre unire le forze, sviluppando mobilitazioni davanti alle basi NATO, davanti alle ambasciate e consolati USA, promuovendo e partecipando alle lotte contro le politiche economico-sociali e repressive del governo italiano e portando avanti un'attività di solidarietà nei confronti di tutti i rivoluzionari prigionieri, tra cui tre compagni delle BRPCC e il compagno anarchico sottoposti al regime di 41 bis, in quanto parte integrante del movimento rivoluzionario della nostra classe, perché continuano a resistere difendendo la loro identità rivoluzionaria contro i continui tentativi dello Stato di ricollocarli all'interno delle compatibilità borghesi, come è avvenuto anche in passato con proposte di soluzione politica, amnistia e indulto. Andrea. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, faccio parte integrante dell'Assemblea Milanese e sono anche un militante di Programma Comunista. Non abbiate paura del foglietto, non leggerò. Cercherò di andare invece a braccio. Riprendiamo le cose dall'inizio, dal principio. Noi abbiamo immediatamente espresso la solidarietà con Alfredo e in questa occasione ci teniamo a esprimere anche la profonda solidarietà con Anna, che è stata sua compagna e che noi riteniamo nostra compagna in questa lotta specifica contro l'abominio della tortura che attua lo Stato italiano, ma anche come simbolo di un movimento possibile che purtroppo non è ancora reale per assalire il famoso cielo. Detto questo, vorremmo ritornare proprio alle motivazioni di fondo per cui la nostra organizzazione si è sentita in dovere di far parte, di essere parte operativa e militante di questo movimento. Da un punto di vista della contingenza storica, è veramente strana la vicenda per cui lo Stato imperialista italiano si è così tanto accanito contro delle azioni che da un punto di vista formale e sostanziale non andavano ad intaccare nulla. Il muro di una scuola di sbirri? Lo stinco di un funzionario dell'IRI? La realtà è ben più profonda. Come abbiamo scritto, noi per 150.000 motivi non abbiamo la stessa storia di rivoluzione, ma ci sentiamo di condividere l'allarme e il simbolo della repressione dello Stato nei confronti di questi istintivi compagni anti-istituzionali. Questo ci permette di ricordare a tutti quanti noi cos'è lo Stato, non genericamente Stato imperialista, non genericamente lo Stato quel che l'è. È lo Stato capitalista nella fase imperialista. La sua funzione è quella, organizzare l'economia e quindi la dittatura sulla nostra classe, e nella fattispecie specifica temperare le punte delle lance puntate nel cuore dei proletari. Una compagna, nelle discussioni che abbiamo fatto nell'ambito dell'assemblea, giustamente ha fatto notare, certo, ci sono i proletari, i prigionieri politici, quindi dei militanti, ma, le metto in bocca una parolaccia, sta cazzo di istituzione carceraria in realtà becca tutti i proletari, anche quelli che inconsapevolmente non hanno nessuna coscienza di classe, ma sono semplicemente irriducibilmente partecipi del processo repressivo dalla parte della repressione. Noi vogliamo ritornare a mettere in luce questa funzione. Noi sappiamo che la crisi che si è messa in moto dal 1975 acuisce le contraddizioni, sappiamo che nell'ambito delle, tra virgolette, dinamiche geostoriche, la crisi genererà una guerra interimperialista. Tutto questo mette in moto quel qualcosa che, attraverso il simbolo del 41 bis, della legislazione dello Stato italiano rispetto alla questione carceraria, ha messo in moto. Detto questo, noi siamo partecipi a tutte le lotte che possano oggi rompere lo stato della pace sociale, punto a capo. In questo contesto generale risulta evidente l'azione di vendetta che lo Stato italiano, visto che purtroppo viviamo qui, ha esercitato nei confronti di quei compagni militanti che, pur essendo diversi da noi, a loro modo hanno pensato a delle azioni di riformismo armato. Ma lo Stato non può permettersi di perdonare. Vabbè, ognuno di noi ha le sue... Chiamiamo, va bene, chiamiamolo istinto rivoluzionario. Comunque, in ogni caso, questi compagni non devono essere in galera. Questa è la cosa fondamentale. Noi non possiamo tollerare la vendetta dello Stato nei confronti di quei compagni. Che sia chiaro, per noi sono compagni. Non è, detto questo, la lotta è generale. La questione generale dello scontro che genera la crisi imperialista coinvolge tutti quei settori proletari che si trovano in prima fila rispetto alla repressione che si scatena attraverso la guerra. È per quello che nel volantino che abbiamo scritto a dicembre del 2023, quindi prima ancora che si scatenasse la bestiale repressione sionista, abbiamo detto che la solidarietà necessaria, quella che noi abbiamo dal profondo del cuore nel confronto di Alfredo, di Anna e di tutti quei compagni, compresi quei vecchi compagni, diventa significativo rispetto a quello a cui andrà incontro e che va incontro tutto il resto della nostra classe. Noi abbiamo detto che non possiamo lasciare solo Alfredo, non l'abbiamo lasciato solo e non sarà solo nella misura in cui ciascuno di noi non lascerà soli i proletari palestinesi, ucraini, russi, e ci siamo dimenticati le ragazze proletarie iraniane vittime di un regime teocratico, tanto quanto è teocratico il sionismo israeliano, per evitare equivoci. Quindi noi, ripeto, abbiamo collaborato, vogliamo collaborare a riprendere il movimento, innanzitutto dal coinvolgimento di quelli che noi consideriamo, ringrazio ancora la compagna che mi ha insegnato la parola, i compagni compartecipi della lotta. Sei sempre tu, sì. Sono un parassita, purtroppo sfrutto, sì, lo so. E comunque, in ogni caso, siamo compartecipi della lotta di quei compagni e cerchiamo disperatamente, insieme a tutti, nel rispetto delle differenze, di portare avanti questo movimento. Concludo, perché giustamente i compagni avevano detto dopo le introduzioni non si va più dei 5 minuti. È una lotta che noi dobbiamo combattere tutti insieme. Il nostro obiettivo deve essere, rispetto a quello che siamo noi, rispetto alla società che abbiamo all'esterno, di continuare a denunciare che cos'è lo Stato borghese nella fase imperialista. A questo punto è necessaria una nota a piedi pagina. La repressione che si accanisce attraverso le modifiche del codice penale Rocco, che è un simpatico codice penale che abbiamo ereditato dal regime fascista, nonostante tutte le, mi spiace per i compagni secchiani, le balle della retorica della resistenza, la continuità dello Stato imperialista si manifesta proprio attraverso la continuità e il peggioramento degli articoli del codice Rocco, che peggiorano tutte quelle che sono le possibilità delle lotte e delle ribellioni sociali. I picchetti, i blocchi stradali, l'aggravamento della resistenza pubblica ufficiale. Ultima nota, e poi finisco veramente, la questione della detenzione amministrativa. Allora, sembra che questa simpatica invenzione dei CPR, con tutti i loro nomi e cognomi che sono variati, siano nati dopo, Turco Napolitano, Bossi Fini, tutti quei nomi di quei politicanti di merda di destra, di sinistra, di centro, comunque rappresentanti di queste istituzioni fetenti, sembrano una novità. Attenzione, non è assolutamente vero. La detenzione amministrativa è un'invenzione degli anni 30, ma non della Germania nazista, ma dello Stato imperialista ultrademocratico britannico, giusto appunto in Palestina. Che, mettiamola lì soltanto come punto di una pulce nell'orecchio, nel retroterra del cervello. Cioè, attenzione, la lotta sociale in questo momento purtroppo è a basso grado. Purtroppo la sconfitta degli anni 70 rispetto alle possibilità, non stiamo a discutere se riformisti o rivoluzionari perché è inutile litigare, è comunque in ogni caso lo Stato chiama vendetta. Quindi stiamo attenti, riflettiamo, cerchiamo di organizzarci e cerchiamo di comprendere che quel che è successo ad Anna, quel che è successo a Alfredo, ma soprattutto il coraggio che loro hanno avuto di mettere in discussione loro stessi per darci la sveglia, non sono cose trascurabili. Quindi, finisco, scuso alla compagna se ho ciulato qualche pensiero e l'ho anche modificato, e compagni, andiamo avanti a organizzare la resistenza e le lotte. Chiaro, è aperto, il microfono è aperto. E volevo dire solo, ho detto prima che la frammentazione del tessuto sociale è una forma di repressione. La frammentazione del tessuto politico lo è ancora di più. Cercavamo dei nessi tra le cose, quindi invito l'Assemblea a mantenersi su questo piano. Prego. Io sarò brevissimo, non ho né fogli, anzi parto da un'autocritica perché anch'io ho vissuto questo. Noi compagni e compagne siamo molto pallosi perché io sento ripetere cose che qui dentro è anche rispettoso per noi stessi. Cioè le spiegazioni dell'ABC del capitalismo, dello Stato, nell'imperialismo, io credo che qui tutti, io rispetto alla gente con cui lottiamo, io credo che fra comunisti, anarchici, rivoluzionari, antiimperialisti, tutta una serie di cose le sappiamo, è inutile che ce le veniamo qui a fare le lezioncine col sottofondo polemico, questo proprio, e trovo che poi allunghiamo a non finire queste assise, diventano cose. Allora, Sì, ho appena cominciato, Adesso mi devi far parlare 18 minuti, come ha fatto... Allora... Io c'ho solo una cosa da dire, sì, io non so una cosa da dire. Lo spirito di unità e solidarietà che abbiamo sperimentato in queste mobilitazioni, sia per Cospito, prima ancora per Nadia Lioce ed altri, contro i CPR, a fianco dei proletari migranti, tutto questo credo che qui molti compagni e compagne hanno un percorso che si tratta di rafforzare, di sviluppare. E abbiamo sempre detto anche una cosa, che rispetto alla repressione una cosa fondamentale è rivendicare le ragioni della lotta. Se si finisce in carcere, se si finisce sotto la macchina di repressione, una cosa fondamentale è mantenere un'unità e difendere il senso della lotta per i livelli che è arrivata, più o meno alti o anche bassi. E questo è fondamentale perché la repressione gioca appunto sul ricatto, la paura, il cedimento, e sappiamo quanti danni ha fatto la cosiddetta dissociazione, soluzione politica qui in Italia, ma anche altrove. Quindi il fatto di imparare a resistere insieme nella lotta e nelle avversità della lotta è una cosa fondamentale. Questo penso che deve aumentare lo spirito comunitario. Abbiamo tante occasioni, le abbiamo avute nel passato e le abbiamo nel futuro. Oggi siamo di fronte a un'altra grande lezione, che è quella palestinese, e io aggiungerei anche quella di altri popoli oppressi che sono in guerra, non in lotta, in guerra contro l'imperialismo e contro l'oppressione statale e locale. E la lezione è che nonostante tutti i genocidi, le atrocità e tutto, è possibile resistere. Lo dico con modestia perché noi siamo qui col culo al caldo, come si dice, relativamente, voglio dire, comunque qui qualcuno qualcosa ha pagato, eccetera. Però rispetto a cosa vivono i palestinesi ed altro, chiaramente va detto con modestia. Ma cosa significa? Che loro riescono, e come dicono nei loro comunicati anche recenti, la resistenza continua e non è piegata. Ed è questo il grande dato. Quello che ci dicono anche i compagni in carcere dagli anni 80, compagni delle Brigate Rosse, e gli altri al 41 bis, compresi dei compagni e compagne anarchiche, quindi non istintivi rivoluzionari o riformisti armati, che sono due insulti, perché scusa tanto, questi compagni, queste compagne, sono in una logica rivoluzionaria da sempre, un'ideologia rivoluzionaria, una strategia discutibile. Evidentemente l'anarco-insurrezionalismo non ha la stessa strategia che le Brigate Rosse o viceversa, ma hanno tutte e due la dignità, tra l'altro, della coerenza e di aver messo in pratica cose che tanti chiacchieroni straparlano di comunismo, di rivoluzioni, e poi hanno fatto ben poco dal punto di vista pratico. E sulle cose bisogna misurarsi sul punto di vista pratico, lo dico anche modestamente con esperienza, perché sapeste quanti tromboni ho visto in carcere crollare miseramente. Potrei citare solo il grande capo Toni Negri, che voglio dire, sì, però è simbolico di chi magari conosce il marxismo dall'A alla Z molto più di me, di sicuro, ma da quel punto di vista di coerenza, di pratica e di quello che tu trasmetti alla classe, quindi finisco lì. Cioè uniamoci, solidarizziamoci, come abbiamo fatto per Alfredo Cospito, per Nadia Lioce e altri, per i palestinesi e per altri, solidarizziamoci, facciamo tutte le unità possibili, ma tenendo fermo l'orientamento rivoluzionario, che è quello che queste prigionieri difendono. Ricordiamoci sempre di questo piccolo elemento della coerenza, e da settembre in poi abbiamo di che fare. È stato breve, credo. Devo venire lì, giusto, scusa, mi sono scordata. Va bene, cioè, non è facile, perché fra l'altro abbiamo messo veramente tanti interventi molto diversi anche nell'introduzione, che sicuramente creano un po' di confusione, perché non si sa più bene di che cosa discutere. Volevo dire che poi magari ci daremo anche altri appuntamenti, che l'idea iniziale era quella di cercare, come ha detto già Tommaso nell'introduzione, come è stato ridetto, di provare di nuovo a mettere in campo una forza che eravamo riusciti a creare tutti insieme quando Alfredo ha iniziato lo sciopero della fame. E quindi l'intento era quello di provare a rincontrare chi aveva partecipato a tutte le iniziative, chi era venuto alle assemblee, che piano piano si sono ridotte di portate di numero, per cui speriamo che magari si riesca, magari prima della fine anche dell'assemblea, di ridarci un appuntamento. Fra le varie cose, adesso venivo sollecitata a parlare dei CPR, sì, come assemblea di contro il 41 bis, l'ergastolo ostativo e non, diciamo sempre ergastolo ostativo perché Alfredo, quando ha dichiarato il suo sciopero della fame, l'aveva definito così. Poi ovviamente noi abbiamo pensato che non fosse sufficiente parlare dell'ergastolo ostativo, perché l'altro lo è ugualmente, cioè l'ergastolo e basta. E ci eravamo detti anche di occuparci, se avevamo le forze insieme, di anche della questione del CPR, che io, per quanto mi riguarda, è sempre stata la mia lotta di elezione, quindi non farei nessuna fatica a riprenderla. Però è sicuramente una situazione tra le più disgustose che possano esistere qua. In questi centri vige la completa arbitrarietà, c'è un sadismo che non si può nemmeno immaginare o definire, e vengono trattati proprio in un modo inaccettabile, non hanno nessuna difesa. Per cui questi centri esistono, a Milano il CPR ha riaperto ed esiste ancora, quindi sicuramente sarebbe un'altra delle questioni nelle quali avere un numero, una possibilità di intervenire ancora, sarebbe super super importante. Ultimamente ci siamo andati, abbiamo fatto un saluto da sotto, la risposta è stata molto forte. Un tempo avevamo molti strumenti in mano, avevamo il telefono, avevamo i collegamenti, riuscivamo ad essere là tutte le volte che c'era una rivolta, un'iniziativa, una protesta. E c'è stato negli anni in cui poi vennero chiusi tutti i 13 CIE su quelli che esistevano, ne rimasero aperti 5 nel 2013, praticamente appunto dei 18 ne rimasero aperti 5. Perché? Perché dentro non avevano mai lasciato perdere, come fanno ancora adesso, di rivoltarsi, però fuori c'era un grandissimo sostegno che nel tempo si è perduto. Questo può essere un elemento da porre nelle intenzioni, se avremo voglia di rivederci e di andare avanti insieme. Fra l'altro è la manifestazione del diritto, cioè della detenzione amministrativa, sulla quale appunto in Palestina in questo momento, su 9.820 arresti che ci sono stati che sono nelle carceri in questo momento, più di 6.000 si trovano in detenzione amministrativa, che là poi in Palestina significa che tu sei dentro, non sai, nessuno sa perché. Gli avvocati non possono avere le carte, i rinnovi vengono fatti di 6 mesi in 6 mesi, non c'è nessuna possibilità di difendersi, in sostanza. Non la facciamo lunga, ci sono i compagni palestinesi che potrebbero magari spiegarlo meglio di me, ma è proprio il sistema che Israele con la I minuscola si è data per combattere in modo più efficace possibile per questi sionisti e la resistenza palestinese. E quindi insomma ci sarebbero un sacco di collegamenti da fare. Visto che ho preso la parola, dico che Annan è in carcere con Juan e con Di Lenardo, che abbiamo nominato tutti e due prima. Ci ha scritto anche a Olga, ha detto che li ha conosciuti, ovviamente si trova benissimo con loro, non avevo nessun dubbio. Juan è un altro compagno anarchico, che sì, è vero, siamo a terra e le cose che facciamo sono di poco conto, però con delle pene esorbitanti. E probabilmente in questo momento io sono anarchica, però non è per questo che mi metto una mano sul cuore per i miei compagni. Si stanno esponendo tantissimo e stanno pagando con delle pene enormi, probabilmente per delle azioni che non sono alla portata di rendere efficace la rivoluzione, ma mi chiederei chi altro le sta facendo, quindi onore e gloria ai nostri compagni che sono dentro. Siamo deboli tutti, a partire da chi interviene qui stasera e da me in primis. Beh, Juan avrà un altro processo per un attacco alla Polgai, che è una struttura dove si addestrano i poliziotti e si addestrano anche gli israeliani. È la terza volta che cercano di fargli un processo per questo. Il 13 ci sarà l'udienza a Brescia, con una presenza davanti al tribunale, e il 16 ci sarà un presidio a Brescia, sempre per Alfredo. Scusate Juan, magari dopo guardo bene gli orari e i posti e ve li dico. C'è un bellissimo testo pubblicato sul Rovescio, non lo sto a leggere perché altrimenti ci annoiamo, però vi inviterei a leggerlo. C'è una bellissima lettera di Juan che non è ancora girata, ma troveremo, la trascriviamo e ve la... Mi avevano chiesto i compagni di leggerla, ma no. Juan è un compagno bravissimo, in gamba, però in questa assemblea altrimenti diventa una cosa improponibile. Adesso, se mi date due secondi, riaccendo questo cellulare e vi dico quando sono queste due iniziative. Allora, no, ce l'ho. Il 13 luglio, sabato 13 luglio, ore 17:30, Largo Formentone, Piazza Ruvetta, Brescia. Martedì 16 luglio, dalle ore 9, avevo sbagliato. Il 13 c'è il presidio e il 16 c'è l'udienza, scusate. Quindi ripeto, sabato 13 luglio, ore 17:30, Largo Formentone, Piazza Ruvetta, presidio. Martedì 16 luglio, ore 9, via Lattanzio Gambara, 40, presenza solidale davanti al Tribunale di Brescia. Grazie. Visto che parlavamo di appuntamenti, si era pensato per il 3 luglio, per dare un inizio al nostro essere di nuovo in strada insieme, di fare un saluto alle 19 in Piazza Aquileia, sotto San Vittore, invece che fare presidi in tribunale, queste cose tristissime. Almeno andiamo sotto il carcere di San Vittore e proviamo ad andarci insieme e vedere se può essere un primo rimomento in cui ci troviamo in strada insieme e per dare solidarietà a chi è rinchiuso dentro quelle mura. Grazie. E proprio sei sotto la cassa. No, ma un dettaglio, leggendo, vabbè, naturalmente sulla Palestina leggo continuamente, come penso facciate tutti voi, avevo letto un'intervista a un detenuto che era appena uscito, peraltro escono in condizioni pietose proprio dalle carceri in questo periodo, veramente denutriti, disorientati, scioccati, cioè stanno facendo li stanno trattando in modo che è veramente incomprensibile da un punto di vista umano. C'era l'intervista a un prigioniero che era appena uscito, che diceva, a proposito dell'isolamento, diceva che vengono divisi per che cercano quantomeno di dividerli per villaggi e città di provenienza, no? In modo da, sì, dici di sì, in modo da non farli sentire come appartenenti tutti insieme alla resistenza palestinese, ma cercare di dividerli, vedo che Karim, cioè, quindi almeno non sto dicendo una sciocchezza, per cercare di farli appartenere a qualcos'altro che non sia la resistenza palestinese. E così, no, naturalmente è una pratica che è stata utilizzata anche in Italia, che viene continuamente utilizzata, quella di isolare, separare. E noi sappiamo come sono morte le lotte nelle carceri, quando i detenuti politici sono stati separati dai comuni, che avevano, il fatto di essere insieme in carcere aveva dato origine a delle lotte, ad una solidarietà meravigliosa, insieme poi alla solidarietà che avevano con i comitati e dei familiari che si trovavano al di fuori, no? Ma il fatto di separare, di isolare, ovviamente è una pratica che il divide et impera, lo conosciamo da sempre. Quindi mi era venuta questa sollecitazione da questa intervista che era stata fatta a questo compagno palestinese appena uscito, e che probabilmente fra 2 giorni verrà ripreso, perché è così che funziona: escono e ritornano, escono e ritornano. Praticamente, appunto, per questa informazione, i palestinesi in tutta l'amministrazione israeliana non vengono chiamati mai palestinesi, ma dal principio vengono chiamati degli arabi. La parola Palestina o palestinese è una parola proprio anche condannata se vieni a utilizzarla verso un altro compagno palestinese. Quindi sono da principio degli arabi, non palestinesi. E poi vengono divisi, come è stato detto, per isolarli dagli altri quartieri e gli altri città palestinesi, per non avere nessun punto di unione o di condivisione sulla modalità, la pratica di resistenza, e non di anche scambio del mahwar della resistenza. È una cosa che è stata, era anche una cosa che dava forza ai tempi, quando i prigionieri entravano, facevano questo scambio del mahwar e uscivano al momento, tipo non si fa mai adesso, e praticamente poi all'uscita, come abbiamo visto con il Barghouti, che è un nostro resistente, è uno dei leader molto importanti, interessanti, che possono mettere a unione tutto l'West Bank con Gaza. È uno in cui spero tutti i palestinesi stanno aspettando, è uno, il primo nella lista di detenuti che la resistenza chiede con qualsiasi accordo che si esce. Anche è stato problematico nell'ultimo accordo, perché quando volevano farlo uscire, non volevano farlo uscire a stare all'West Bank, ma volevano portarlo a Gaza. Questa forma di, anche all'uscita dei resistenti, lo fanno spesso, in cui togliono la funzionalità del resistente in sé. Quindi se la tua funzionalità è nell'West Bank, ti eliminano e fanno eliminazione, che tu esci e vai all'West Bank, vai a Gaza, e è anche il contrario. Abbiamo visto i comportamenti dei resistenti che erano resistenti di Gaza, ma sono colpa di anche questa forma, sono stati spostati all'West Bank e sono anche stati uccisi nell'West Bank ultimamente. È la stessa cosa che vogliono fare con il Barghouti e tanti altri leader, di spostare il loro posizionamento. Dico che, nonostante quello, ci stanno riunendo. Ultimamente abbiamo trovato anche le nostre resistenti nell'West Bank con le azioni in Jenin, in Jenin e poi in Ramallah e il resto dell'West Bank, che stanno anche accelerando avere la via della resistenza con tutto il popolo palestinese e soprattutto resistenti a Gaza. Basta. io penso fino a 5, poi possiamo chiudere. Se qualcuno ha tentativo di intervenire, che lo faccia subito. Intanto vi ricordo. Vi ricordo la mostra al piano di sopra dell'archivio e il banchetto e il rinfresco. Basta, vedi che ricordo. Visto che si è parlato giustamente delle tecniche di divisione e che non ha, o nella storia si è parlato di quando avevamo sostegno di grandi masse alla spinta rivoluzionaria, vorrei ricordare che c'è una cosa adesso su cui spingere e che è preziosa, che già dai tempi della mobilitazione per Cospito alcuni settori di sindacati di base, chiamiamoli così, si sono ingaggiati sempre di più nella solidarietà. E adesso, da settembre in poi, ci sarà il problema del decreto sicurezza che colpisce in modo particolare picchetti, occupazioni, forme di lotta, eccetera. Io partecipo anche in quegli ambienti lì e sento molto il clima, per esempio a Genova, quando siamo stati lì al blocco del porto, c'era la discussione su queste cose. Loro sono ben disposti ormai sempre di più a recepire il legame fra le diverse repressioni. Certo, non è automatico, non va da sé. Ma il fatto di sostenere tutte le forme di resistenza contro la repressione che colpisce e colpirà sempre di più i settori operai, sociali, in lotta, e collegarli alle repressioni politiche dei militanti, delle diverse esperienze. Questa cosa qui oggi si può fare sempre di più, e su questa cosa qua appunto diamoci da fare. È possibile, perché è la logica delle cose, insomma, cioè, non è più... tanto sforzo e cosa, e poi c'è il sottofondo della guerra, nel senso, qui ormai ci hanno trascinato in un clima di guerra, siamo in guerra mondialmente, e quindi anche su quello bisognerà spingere sul fatto di livelli di coscienza e poi di determinazione di lotta, perché fra un po' le semplici lotte non basteranno più, quindi insomma è possibile questa cosa qua, e diamoci da fare. Ma io volevo dire un paio di cose banali, semplici. Anzitutto, premetto che ho perso i primi interventi che ci sono stati nell'assemblea, perché sono arrivato tardi, perché sono un ritardatario cronico. rispetto alla situazione del compagno Alfredo Cospito, io penso che siamo nel 2024, ecco, penso che in vista del 2026, quando penso dovrà esserci l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che definirà che deciderà sulla permanenza o meno del compagno nel regime detentivo di 41 bis, ecco, penso che in vista di quella udienza sia auspicabile, sia opportuno riprendere appunto un discorso sul 41 bis, riprendere l'iniziativa, rilanciarla, e quindi in qualche modo riannodare il filo di quella mobilitazione che abbiamo portato avanti tra 2022 e 2023, e quella mobilitazione appunto che è andata purtroppo scemando già da marzo, comunque poi ad aprile del 2023. Ecco, quindi penso che questa questione sia centrale. Questione, cosa intendo? Nel senso di attrezzarsi e di prepararsi affinché possiamo arrivare a quella data, non c'è un'udienza precisa fissata, mi pare, affinché appunto si possa portare avanti dei momenti di mobilitazione contro il 41 bis e in solidarietà ai rivoluzionari prigionieri e a sostegno delle pratiche di cui sono accusati. Questo, diciamo, questa esortazione mia, tra virgolette esortazione, ha a che fare anche con le eventuali altre udienze che ci potranno essere, in particolare quelle che presumibilmente ci saranno in merito al procedimento cosiddetto Sibilla, che ci vede inquisiti in una, non mi ricordo più, una decina di compagni, mi pare 13 o 14, per, inizialmente per associazione sovversiva con finalità di terrorismo e poi con la chiusura a indagini solo per istigazione a delinquere con la circostanza aggravante della finalità terroristico-eversiva. E quell'eventuale procedimento che potrà scaturire appunto rispetto al giornale anarchico Vetriolaco, un giornale cui Alfredo Cospito ha partecipato e di cui ne era redattore, appunto quel processo potrà essere un momento per portare avanti la mobilitazione contro il 41 bis, dei momenti di mobilitazione, insomma. Ecco, quindi c'è da un lato questo processo che appunto hanno chiuso le indagini, ma non siamo ancora stati rinviati a giudizio, e poi c'è appunto la questione, devo dire, ben maggiore di quella scadenza del 2026. Ecco, al di là di questi aspetti, diciamo così, di natura prettamente tecnica, secondo me, non vi dico niente di nuovo, secondo me occorre, anche nel contesto della mobilitazione contro il 41 bis, anche nel contesto dei momenti di solidarietà con i rivoluzionari prigionieri, ecco, anche lì occorre porre al centro la guerra, cioè la tendenza alla guerra, perché questo aspetto qui, secondo me, è quello che è centrale in questo tempo e in questa epoca, ed è quell'aspetto, quell'elemento che costitutivamente, strutturalmente, va poi a definire e a connotare anche tutti gli attacchi repressivi che stiamo subendo. Si vedano, ad esempio, gli attacchi ripetuti contro le pubblicazioni, si parla anche di sequestri di pubblicazioni, tra l'altro è stata sequestrata pochi mesi fa in centinaia di copie di una pubblicazione, La Tempesta, che appunto tratta di quanto sta avvenendo a Gaza e in Palestina in generale, è stata sequestrata in centinaia di copie in maniera preventiva, in maniera mirata. Per carità, è un episodio, se vogliamo, minore, banale, però ci dà anche un po' il quadro, ci dà, come dire, il quadro di quella che è una censura che c'è, che sussiste nei confronti di chi porta avanti, come si diceva prima, una prospettiva rivoluzionaria, cioè di trasformazione radicale di questa realtà sociale e quindi di, in definitiva, di abbattimento dello Stato e del capitalismo. Ecco, per cui chi porta avanti non solo il sostegno all'azione, cioè chi ribadisce la giustezza dell'azione, la necessità dell'azione diretta, e quindi l'urgenza anche di muoversi contro quello che accade nel mondo, non solo contro gli attacchi repressivi, non solo contro singoli apparati, siano essi il carcere e così via, ma appunto contro quanti sostengono la necessità dell'azione, c'è in corso questa offensiva repressiva. E non solo, perché l'offensiva repressiva appunto riguarda anche tutte quelle realtà, tutti quei gruppi di compagni rivoluzionari che portano avanti un percorso di elaborazione, di analisi, di approfondimento critico dei percorsi rivoluzionari, delle esperienze passate, e le portano appunto avanti contestualizzandoli poi nel presente, appunto. E questo aspetto qua è centrale, secondo me, perché lo Stato vuole porre un monito in termini di deterrenza nei confronti di quanti, appunto, alla luce del sole, perché di questo parliamo, di quanti nelle proprie pubblicazioni sostengono la resistenza palestinese, di quanti appunto portano avanti, come dicevo prima, un'analisi rivoluzionaria del presente, di quanti appunto, come dicevo prima, sostengono l'iniziativa rivoluzionaria, l'azione diretta, chiamiamola come cazzo ci pare. Ecco. E quindi è in corso questa, questa offensiva repressiva. A mio avviso è necessario ed è di estrema importanza, ma appunto anche ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto non vi dico sicuramente niente di nuovo, è di estrema importanza non fare passi indietro su questo terreno, quindi non fare passi indietro anche sul terreno proprio della propaganda, dell'agitazione, dell'elaborazione della teoria stessa, della riflessione e anche di quei momenti di condivisione come possono essere anche, come può essere appunto anche quello di oggi, che anzi devo dire che è anche ben più importante, perché qua oggi noi trattiamo di un rilancio di un'iniziativa appunto contro il carcere, la repressione, le strutture di detenzione amministrativa e così via, appunto un rilancio, cioè cercare di articolare questo rilancio partendo dalle forze vive che ci sono nel movimento rivoluzionario. Ecco. E quindi, secondo me, alla luce adesso di tutti questi aspetti che io ho riportato abbastanza, devo dire, abbiate pazienza, confusionariamente, però il dato centrale è quello della tendenza alla guerra. Quindi riuscire a evitare delle parcellizzazioni, delle suddivisioni in settori di intervento, in singole battaglie, ma cercare di cogliere il portato complessivo e generale di che cosa significa oggi la guerra. Ecco, questo è il nodo, che secondo me occorre un po' cogliere. Va bene, chiudiamo qua, è stata lunga, ricca e interessante, e vedremo di chiamarne delle altre, certo, ci rivedremo. Ecco, intanto, come dire, un impegno è questo qua, e poi vediamo.